novità sono ottime perché la Madonna è riapparsa. Credo fermamente nei segnali superiori che Fatima continua a dare, che la Madonna proprio dai tecnocrati dell'Europa non ci voglia venire. Brutti miscredenti! La Zanzara. Nuova, ti ho comprato però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Super Berlusconi, quasi ovunque, in televisione sicuramente da Santoro, almeno ha confermato per adesso, poi domani a Porta, stasera a 8:30 sulla 7. E beh, ormai quando uno va in televisione ore ed ore, insomma, scappa qualsiasi cosa. Per esempio, Mattino 5, ormai Mediaset cerca tutte le cose possibili, anche Sport Mediaset su Balotelli, qualsiasi strapuntino possibile immaginabile. Mattino 5, Berlusconi faceva ricorda i tempi andati. Questi studi qui li conosce, no? Direi di sì. C'è già stato qualche volta. Sì, qui facevo di tutto, facevo io il regista e scrivevo i testi, facevo il casting, controllavo il trucco. Insomma, la mia esuberante personalità trovava modo di affermarsi. La mia esuberante personalità trovava il modo di affermarsi. Poi questa cosa della tragedia, del dramma fare politica. Ma se deve essere un dramma, una tragedia, perché uno ha fatto politica? Vabbè, comunque. Senta, ma era più divertente questo o quello che fa ora? Beh, quello che fa ora è un dramma, una tragedia. Quello che ho fatto nei 18 anni, 19 anni di presenza in politica, perché il Presidente del Consiglio non conta nulla in Italia. E poi, signori, la punturina. Arriva la punturina. Parentesi, 10 minuti fa, mi hanno avvertito che il mio coéquipier, il mio roommate, sta male. Anzi, lui mi ha avvertito dicendo sto male, che hai una congiuntivite. Ma scusa, ma stai parlando con me? No, però non me la sento di andare in onda. Ma come non te la senti? Dice di stare male. Io sono andato in onda pure con 39 di febbre. 39! Stavo quasi morendo. Ma qui non c'è il sostituto, perché l'avevo chiamato lo stesso, eh. Ciao Luca. Ehi là! Dove sei? Dove sono? Sono in mezzo a una strada. Come in mezzo a una strada? In tutti i sensi. In tutti i sensi, stai. In tutti i sensi, stai in mezzo a una strada. In tutti i sensi, professionalmente. Scusa un attimo, Luca, ma siccome ci sono un sacco di giornalisti che si candidano, anche Corradino Mineo, direttore di Rai News 24, ha annunciato oggi la sua candidatura. Comunque il PD ha annunciato la sua candidatura al Senato per il Partito Democratico. Perché Vendola non ti candida? Ti ha chiesto magari di candidarsi? Tu che sei molto, molto amico di Vendola. No, ma io non ho mai fatto politica. No, ma lo so, ma te l'ha chiesto? Te l'ha chiesto? No, non me l'ha chiesto, ma penso che sia. Spero di comunicare soddisfazione in quello che faccio. Non si sente niente, però stai fermo, non si sente niente. Aspetta un attimo. Ecco. Berlusconi sulla Minetti. Sentite questa cosa dei 5 esaminatori, una cosa pazzesca, i 5 esaminatori. La signora Minetti è andata in Viale Monza, dove noi avevamo 5 esaminatori dei possibili candidati non conosciuti, e 5 esaminatori hanno dato un voto favorevole. Poi è andata in Consiglio regionale, è stata investita da un'attenzione spasmodica, da insulti, da offese, da trattamenti indebiti, ed è stato molto difficile per lei continuare ad essere la persona che era. Beh, Questa che tipo di balla è, Luca? È scomparso pure Telese, vabbè. Balla se squipedale. I 5 esaminatori. A un certo punto è entrata in Consiglio regionale, è stata insultata e dunque ha cambiato atteggiamento. Ed è cambiata lei, perché prima che era. Bah. comunque è entrata come rappresentante del San Raffaele, sentite. Su Nicole Minetti è una storia particolare, perché c'era stata proposta da Don Berzè perché voleva avere dentro il Consiglio regionale una rappresentante del San Raffaele e ci aveva presentato due o tre persone, tra cui Nicole Minetti, che era, si era laureata col massimo dei voti nella sua università. Gli accordi scritti di Maroni questa mattina ad Alessandro Milan. Maroni dice c'è un accordo scritto che Berlusconi non farà il premier, ma se dovesse mai vincere una coalizione con Berlusconi, la Lega eccetera, il PDL magari piglia il 25%, il 30%, difficile, eh? Però insomma Berlusconi ci ha abituato a grandi di monte. Ma secondo voi chi lo fa il premier? Maroni. Oggi il Corriere della Sera scrive che è scritto in maniera nero su bianco che Berlusconi non si impegnerà a non essere il premier. Esiste questa cosa scritta? Non si candiderà alla presidenza del Consiglio, l'accordo che abbiamo preso è un atto di generosità da parte sua. Ma è scritto proprio nero su bianco? Cioè è scritto? È nell'accordo, certo, abbiamo fatto l'accordo e nell'accordo c'è oltre il 75%, oltre la maggioritaria. Inizia bene Massimo Mucchetti, candidato col Partito Democratico, il quale dice: entrando in politica perdo molti soldi. Bah! Io non credo di avere mai guadagnato le cifre di Feltri. Le cifre di Feltri. Abbiamo avuto degli itinerari di carriera differenti e tuttavia penso di perdere tanti soldi. Il mio reddito disponibile. È la prima volta in questo studio parliamo sempre. Luca Telese. Ma perché? Dimmi. Perché dubiti di Mucchetti? No, può darsi. Noi sappiamo che certi signori stupendi. No, ma poi io non dubito di Mucchetti. Sicuramente se lui ha nella dichiarazione dei redditi guadagna, che ne so, 500.000, 600.000, 700.000 euro, entrando in politica sicuramente ci perde. Però insomma, perché bisogna dirlo? Non ho capito. Forse perché... Senti come gli ha risposto veramente. Senti come gli ha risposto Feltri. Il dottore ha detto già, basta fare una puntura. Tu sei un signore che è abituato a guadagnare bene. Sì, è vero. E quindi per te fare politica era una perdita secca. Fra l'altro, quando lo dico, mi guardo come se fossi un pazzo, ma mi devo vergognare di quello che guadagno. No, mica lo rubo, me lo danno. È per contratto. Il denaro me lo danno per contratto. Quindi non me ne vergogno. Se devo perdere dei quattrini per andare a fare un lavoro che non so fare, quello del politico, allora sarei veramente un cretino. Allora, sentite questa, Galli, contro cui non ho nulla naturalmente, ex direttore generale di Confindustria, voleva la riforma delle pensioni, quella della Fornero, molto più radicale. Adesso è candidato col Partito Democratico, alleato di Vendola. Lo stesso Galli, ex direttore generale di Confindustria, diceva sull'articolo 18 che andava attuato solo per casi limitati, cioè andava mantenuto solo per casi limitati, tra cui la discriminazione. Adesso è candidato col Partito Democratico, alleato di Vendola. Luca? Sì, piace molto quel Feltri, non lo lasciamo andare via così, mi pagano dei quattrini per contratto. Beh, da quello che io so una cifra molto alta, però... Ma sono meritati, no? Sì, no, ma sono meritati o no, non lo so, però lui dice perché devo... In questa hai rotto un tabù, cioè il tabù è che non si dice quanto si guadagna... No, bisogna dirlo. Tu quanti soldi hai perso? Scusa, tu con la chiusura di Pubblico quanti soldi perdi, per esempio? 100.000 euro, ma non me lo far dire, santo Dio. Beh no, 100.000 euro l'anno, questo era il tuo stipendio? No, 100.000 euro li ho persi in 3 mesi. I tuoi soldi che hai messi, ma lo stipendio quant'era? Io guadagnavo 120.000 euro l'anno. Dunque, 120.000 euro più i 100.000 di investimento tuoi. Questo... Esatto. Va bene, è con noi Giancarlo Gentilini, buonasera. Ciao Zanzara Tigre, sono 10 minuti che ti ascolto, va? Lo so che lo sceriffo non va affatto attendere. Non va affatto attendere. Guai. Dice sindaco, ma candidato di nuovo a sindaco di Treviso, Gentilini. Ma sempre candidato. Ha 82 anni, quanti anni ha lei, Gentilini? 83. Ha 83, ma era il caso... ragazzo mio, ma l'importante è essere giovani. Ma è il caso di tornare in pista a 83 anni, Gentilini? Certo, ma no, non sono io che mi metto in pista. Sono i miei cittadini che mi vogliono in pista. Cioè a gran voce proprio. A gran voce, coram populo. Hai capito? Il grido di dolore del mio popolo che dice: gentilini, per l'amor di Dio, non abbandonarmi. La città senza di te è finita. E allora io devo fare ossequio. Scusi, però, Gentilini, abbia pazienza, ma un leghista più giovane, cazzuto come lei, magari c'era da candidare? No, nessuno. Guarda, nessuno. Vabbè. Non c'è nessuno che sia come il sottoscritto. Il Padre Eterno ha creato lo stampo e poi ha detto basta un Gentilini nella storia, buttiamolo a mare lo stampo. E quindi sono rimasto solo. Meglio solo che male accompagnato. Lei conosce il signor Telese? Il signor Telese? Conosce? Telese, sì, l'avvocato Telese. Ma quale avvocato Telese? Questo. A Luca, non ti sento, sei peggio di Parenzo, non ti sento. Dove stai? Vabbè, arrivederci. Gentilini, che ne pensa di questo accordo tra Maroni e Berlusconi? Vedi, a un dato momento, come presupposti della nuova Lega, ci doveva essere l'abbandono completo del PDL e di Berlusconi. Appunto, lei l'ha detto. Ma la ragion di Stato. Mi hanno detto che è la ragion di Stato. Sai, qui la ragion di Stato che veniva utilizzata nei millenni, sì, in cui le donne venivano obbligate a fare le suore, sì, e a rinunciare alla loro femminilità, e allora succedevano le cose, sì, della monaca di Monza, sì, o i maschi mandati a fare i preti, sì, o venivano fatti massacri per preservare il potere. E questa volta il potere ha adoperato la ragion di Stato, perché cioè lei dice le poltrone. Maroni abbia letto Il Principe di Machiavelli. Ecco. Il fine giustifica i mezzi. Ma lei è d'accordo? Io non sono d'accordo. Ecco. Io sono di quella Lega la quale è stata distrutta dal governo Berlusconi e Bossi, il quale non ha approfittato di adoperare il potere. Sì. Quando si ha il potere, sì, si adopera. E doveva cambiare l'Italia. E invece non hanno fallito. Non hanno cambiato assolutamente niente. Sì. Si sono persi in fessurine, sì, di ogni tipo. E quindi questa io non sono assolutamente d'accordo di questo inciuccio. Ma sai, il Machiavelli lo ripeteva, sì, e Maroni ha detto qui devo vincere in Lombardia, la regione Lombarda. Ma a lei, Gentilini, della Lombardia, a me la regione Lombarda non frega niente. Io lo sapevo. A me l'Italia non mi frega niente. A me interessa la città di Treviso. Hai capito, Telese? Lo trovo fantastico. Lui ha detto giustamente, dice, a me che me frega la Lombardia, di vincere la Lombardia? Io già il Veneto, cosa me frega niente la Lombardia? Ma sì, ma insomma, per lei l'Italia finisce in Veneto. Poi i Lombard mi hanno fatto quello scherzetto. Sì, che scherzetto. Di distruggere la credibilità della Lega, hai capito? Lei dice. È stato uno scherzo malvagio. Ma i Lombardi, lei dice chi? Ma io parlo dei Lombardi al vertice, sai? Quelli al vertice, dice. Hanno distrutto delle stanze dorate, dei diamanti, sì, dei denari all'estero. Sono stati Lombard, sono stati i leghisti Lombardi, i traditori della Lega, dello spirito della Lega, i ladroni della Lega, no? Giuseppe, c'è una secessione in corso. C'è una secessione in corso. Aspetta un attimo. Ho portato, io da 20 anni parlo, sì, in tutta l'Alta Italia, sì, ma in questo momento io non so più cosa dire, sì, ai miei leghisti, hai capito? Certo, continuavo l'accordo con Berlusconi. Bossi sembra, potrebbe essere addirittura candidato in Parlamento, ma secondo lei deve andare... No, lasciamo perdere. Si scoprono le tombe, si levano i morti. No, assolutamente no. Restano sepolti. Scusi un attimo, però, Gentili, se lei ha 82-83 anni vuole candidarsi di nuovo a sindaco di Treviso, perché Bossi non si potrebbe candidare in Parlamento? Lei dice non è una questione di età, Bossi ha distrutto la Lega. Vedi, forse Bossi ha fatto un grande errore, sì, ha massacrato la Lega, sì, e la credibilità della Lega, la quale era un movimento che stava conquistando regioni, stava conquistando tutto. Io invece, io sono un piccolo sindaco di campagna, sì, conosco i miei limiti, sì, e voglio fare il ventennio come quel grande capo di tanti anni fa. Tanti anni fa, tanti anni fa. Voglio fare come il due. Traffico, torniamo subito. Giancarlo Gentilini, vice sindaco, candidato di nuovo a sindaco di Treviso. Telese, un mito, una leggenda. Uno può essere anche contrario, sì, però ma, che ha 83 anni sia ancora qui, eh? Oh, sono sconvolto. Da che sei sconvolto? Da cosa? E ho sentito delle frasi contro Bossi, contro Maroni, contro i Lombardi. C'è stata la secessione in diretta. La secessione del Veneto, di Treviso per adesso. Treviso secesso alla Lega. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Dove sei, ma dove sei? Eccoci qui, la Zanzara, 18:47, con il sindaco, anzi io dico sempre sindaco, ma con quante percentuali? Ah, però sindaco, dai! Con quanti, come pensi di vincere, col 90%? Ma io spero di vincere con quanto? Con le maggioranze bulgare, hai capito? A lei piacciono le maggioranze quelle bulgare? No, le bulgare, no, i bulgari no. Però anche Stalin, ma altre maggioranze mi vanno bene. Cioè, che tipo, le maggioranze come, tipo? Hai capito? Ma poi volevo dirti una cosa. Dimmi. Che l'accordo, sì, Berlusconi, pare scritto, accordo scritto, lei ci crede? Voglio precisare una cosa, sì, che non succeda, sì, che le nuove, i nuovi virgulti, sì, che gestiscono la Lega, sì, si sognino di dare disposizioni a noi sindaci, a noi comuni, a noi città, sì, su quello che dobbiamo fare, sugli apparentamenti. Io ho detto che se riesco a vincere le elezioni, sì, non voglio compagni di viaggio. Cioè lei, compagni ne ho avuto abbastanza nel 45-46, non voglio altri compagni di viaggio. Cioè, perché ormai siamo alla balena bianca numero 2, sì, perché la balena bianca 1 è finita, sì, in 50 rivoli, sì, e questa, è anche il PDL si sta dividendo in 4-5. Vorrei sapere, sì, qual è l'attuale PDL. Vabbè, lei non fa nessun accordo con PDL, non mi devono rompere scatole dei, no, nuovi... No, fuori. Ma i nuovi virgulti, chi sono i nuovi virgulti della Lega? I nuovi virgulti, chi sono? Ricordati che per amministrare bene basta uno che comandi. Uno solo. Sì, capito, Parezzo, capito, Telese? Ho capito. Ma voglio chiedere una cosa, dimmi, Luca. Chiedi. Volevo chiedere se secondo lui quella antica leggenda metropolitana del palazzo, e cioè che ci fosse stato un accordo per cui il simbolo della Lega è stato ceduto e questo fosse il motivo del vincolo stretto fra Berlusconi e Bossi, sia ancora oggi una cosa probabile, che ha contato su questo accordo fra Maroni e Berlusconi. E c'è questo vincolo che lega Berlusconi? Per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio, no. Tagliamo tutti quei tentacoli che hanno avviluppato la Lega quando era al governo, per l'amor di Dio. Abbiamo, e questo vi posso dire, sì, che questo accordo di cui noi della base non sapevamo assolutamente niente, ha scatenato le ire perverse nei confronti dei militanti, perché ciò, in un dato momento sono quasi, è quasi un anno e mezzo che diciamo, sì, basta Berlusconi, e adesso riappare dalle brume della palude, torna a emergere Berlusconi. Allora dica prima qualcosa a Maroni. Ci fosse anche Bossi, dica così facciamo la coppiata piangente. Dica qualcosa a Maroni, però è Maroni che ha siglato questa cosa. Lei ha detto Machiavelli, è come Machiavelli, d'accordo? Sì, io credo che abbia letto Il Principe di Machiavelli. Però scusi un attimo, lei ci crede alla parola che ha dato Berlusconi, che poi se dovesse, tanto non vincerà mai questa coalizione, che dice lei? Sai, non bisogna dire mai, hai capito? Ma lei ci crede a Berlusconi, alla parola di Berlusconi che ha scritto sulla cosa? Io non mi fido, no, la parola di Berlusconi io non la tengo in nessun conto. È una parola che non conta, perché quando ha detto che andava, quando è andato al governo ha detto, sì, le tasse le porterò al 30%, sì, farò il federalismo fiscale, sì, butterò a mare tutta la burocrazia, sì, darò lavoro ai giovani e tutto quanto. un pallone gonfiato, si è sgonfiato, sì, e la Lega si è sgonfiata assieme. Hai capito? La Telese, so. Telese, la Lega vera, come risponde? Come risponde a questo accordo la Lega vera? La Lega vera dico che non si doveva fare. Io preferisco essere fucilato nel petto e guardare negli occhi il nemico piuttosto che essere pugnalato alle spalle. Meglio perdere, dice lei. Meglio perdere, ma perdere in piedi. Io sono un vecchio alpino, sì, e so cosa vuol dire essere in guerra e essere di fronte al nemico. Mai presentare le spalle. Hai capito? Sempre il petto. Percentuale questo accordo. Quanto? Quanto costerà questo accordo elettoralmente? Un punto, due punti, nulla? Si dureranno il naso i militanti leghisti? Io non so cosa succederà, perché qui quando fai una previsione il giorno dopo salta, sì, perché nessuno prevedeva questo accordo. Scusi, mi viene una curiosità, Gentilini, ma lei ha 82-83 anni, ancora pratica, vabbè, abbiamo capito. Io pratico tutte le virtù corporali. Tutte? Se vuoi saperlo. Ma come fa 83 anni, scusi, Gentilini? Perché io sono di quella maschia gioventù, sì, della romana volontà. Sì. Io quando Mussolini è venuto a inaugurare l'aeroporto a Treviso, sì, nel 1938, sì, io montavo la guardia all'Istituto Gioventù Italiana del Littorio. Quindi questo... sono duro, temprato, ma onesto, hai capito? Cioè, 83 anni ancora pratica, insomma. Ancora pratico quello che si deve praticare. Cioè, sesso a volontà, no? Quel magari giorno in cui, sì, non sono più praticante, sì, vado sulle mura a leggermi il giornale. Ma finché io sono un praticante, come un prete, no? Sì. A un certo momento, finché è in grado di, sì, di fare la predica, e di essere un ministro di Dio, sì, in mezzo al popolo, allora resta in chiesa, e poi altrimenti va nei dispensari, sì, nelle case di riposo e basta. Io non ho nessuna intenzione, sì, di andare nelle case di riposo. Ma senza aiutini, Gentilini? Senza aiutini? che ne so, la pillolina, queste cose qui, che ne so. No. Pronto? Senza aiutini? Cazzo, parla più forte, no. Senza aiutini, dico? Tutto naturale? Tutto naturale. Tutto naturale. Mai adoperato, mai adoperato i supporti, supporti chimico-fisici, hai capito? Scusi un attimo, lei ai leghisti, se fosse vero che questi sono comprati con i soldi pubblici le lavatrici, ha sentito l'ultima cosa, no? Cosa farebbe a questi leghisti? Tra l'altro c'è pure un Veneto implicato. Guarda, io ho detto nel 1994, sì, se uno, sì, tocca il vaso della marmellata che io ho chiuso, sì, gli taglio la testa adoperando la scimitarra dell'Idiosam. Qui nessuno ha mai toccato un euro, perché il denaro del mio popolo, sì, è sacro. Sì. Invece in altri siti, in altri luoghi, sì, in altre sale dorate, sì, questo non è successo, hai capito? Si sono a mani piene, sì, e hanno mangiato finché hanno potuto. E questo è stato il tradimento nei confronti della Lega, sì, pura e dura, come è la mia. Vabbè, comunque, lei la prima cosa che fa, se viene a letto, che fa? Le case chiuse, finalmente facciamo queste case chiuse, o no? Pronto? Queste case chiuse le vogliamo fare prima o poi a Treviso o no? Queste case chiuse? Una? Le case chiuse le vogliamo fare a Treviso? Le case chiuse, sono 20 anni che lo dico. Lo so, lei dice no. Ma la pruderie, hai capito? Lo so. Vuoi che ti racconti un fatto? Sì, mi racconti. Quando sì, gli alpini sono entrati, sì, ad Addis Abeba, sì, con il comando del generale Graziani, sì, sai qual è stato il premio per i miei alpini di quel tempo? Qual è stato? Poiché c'era il divieto di andare con le donne, sì, a piscine in quanto c'era pericolo di malattie, sì, sono arrivate dall'Alta Italia una ventina di donne, sì, e hanno fatto una tenda con i 4 teli, sì, un secchio d'acqua e 40 alpini in fila uno dopo l'altro. Vedi, e nessuno, sì, aveva fatto miracoli. Bei tempi, nessuno dice, aveva fatto eccezioni, sì, moralistiche e tutto quanto. Te credo, era c'era il fascismo. Questa? C'era il fascismo anche, Gentilini. E poi la prostituzione, sì, è un fiume di denaro, sì, esentasse Monti ti tassa anche l'aria, perché mi aspetto a un dato momento che venga tassata anche i litri d'aria che ognuno respira. Ecco, scusi, e non scusi un attimo. Il coraggio di mettere le mani in questo fiume di denaro. Sì. Che va a però scusi, Gentilini, scusi un attimo, però lei mi ha descritto una scena con queste 20 ragazze portate dall'Italia, però insomma adesso questo c'era pure il fascismo, l'hanno portate un po' a forza dall'Italia queste qua. Hanno portato, adesso c'è questo mercato bastardo che hanno ridotto le strade. Lei dice erano bei tempi quelli in cui c'era, no? In cui nessuno si meravigliava. Nessuno si meravigliava. Adesso... era tutto tassato. Era tutto tassato. Ricordati, sì. Perché le tenutarie qui anche di Treviso, sì, ma perché ci sono avevano ad ogni marchetta dovevano versare il corrispettivo al comune o alla provincia a quei tempi. Sì. E nessuna evasione fiscale. Invece oggi abbiamo che con il ricavo di quelle prestazioni si potrebbe salvare il debito pubblico. E la pena di morte? La pena di morte la vogliamo reintrodurre pure la Bene, ma ho cercato, credo di aver riempito le scrivanie di tutti i ministeri su questa istanza. Vabbè. Ma caro, non c'è niente da fare ormai. Ecco, lasciano pure, perché forse c'è tanta altra gente interessata. Sì. Il mercato delle bianche, delle nere, delle gialle conviene a qualcuno. La ringrazio, l'abbraccio, Gentilini. Va bene. A presto. Ciao Zanzara Tigre. Il vento del nord. Il vento del nord, arca miseria, è diventato un venticello. Berlusconi e la tassazione della prostituzione. La Lega propone ufficialmente di legalizzare e tassare la prostituzione. Lei è d'accordo? Non ci ho mai pensato, francamente non è un problema che mi angoscia. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La Corte Europea dei Diritti sanziona l'Italia nelle carceri, condizioni disumane, Napolitano, mortificante, conferma. Per l'Unione Europea l'IMU non è una tassa equa, rischia di penalizzare i più deboli, va modificata per essere più progressiva. Sempre più giovani senza lavoro, toccato il record assoluto, ai massimi storici anche in Europa, Bruxelles, Italia, alto rischio di povertà. Il PD chiude le liste dei candidati per le politiche a Camera e Senato, rientrano le dimissioni del segretario della Puglia Blasi. Maroni, Berlusconi generoso a non candidarsi a Premier, Casini, PDL, Lega, intesa tra disperati, nel Lazio ipotesi Lorenzin e l'ira di Storace. La Guardia di Finanza torna nella sede della Regione Lombardia, acquisiti scontrini e fatture, questa volta dell'opposizione. Un prefetto, un provveditore alle opere pubbliche, funzionari, manager a Napoli, 12 arresti per presunte irregolarità negli appalti per il centro elettronico della polizia. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato. No, ma io la storia dei verificatori, degli esaminatori, la voglio riascoltare. Berlusconi e gli esaminatori della Minetti. Gli esaminatori che volevano scovare, dovevano scovare al San Raffaele un candidato adatto. 5 esaminatori. Non è possibile, 5 esaminatori. La signora Minetti è andata in Viale Monza, dove noi avevamo 5 esaminatori dei possibili candidati non conosciuti, e 5 esaminatori hanno dato un voto favorevole. Poi è andata in Consiglio regionale, è stata investita da un'attenzione spasmodica, da insulti, da offese, da trattamenti indebiti, ed è stato molto difficile per lei continuare ad essere la persona che era. Luca, ci credi agli esaminatori della Minetti? Sembra uno di quei film tipo i sexy degli anni 70, no? Te lo immagini la locandina, gli esaminatori con Lino Banfi, Bombolo, e in mezzo Anna Maria Rizzoli o Edvige Fenech. Con tutto il rispetto per questi attori. Per, no? Gli esaminatori, che è un ruolo importante, no? Ma cinque, poi immagini che uno li chiedeva, che ne so, di geografia, un altro lo interrogava sull'inglese, che poi lei è anche laureata, come sappiamo, no? Sì. Evidentemente questa squadra di esaminatori è rimasta folgorata dalla cultura generale. E poi Minetti. Il cambiamento della Minetti, cioè una volta entrata al Consiglio regionale, evidentemente da persona straordinariamente preparata, è stata insultata e dopo sarebbe cambiata. Certo. La cosa che diverte... E questa idea della Minetti, che dopo essere stata questa specie di madrelingua inglese, erudita, saggia, eccetera, improvvisamente impazzisce e si mette a fare le sfilate in tanga, no? Sì, sì. Si mette a con i fondi della regione. Sì, secondo te un ex direttore generale di Confindustria, come Galli, persona stimabilissima, eccetera, che si candida in una coalizione dove c'è anche Vendola. Ma quanto ti arrapa questa cosa? Io lo so che ti arrapa. No, a me mi arrapano molto le cose. Tu ci farai un mese di campagna, no. E si è redento. Galli si è redento. Cioè? Eh? Cioè come si è redento? E viene dalla Confindustria. A Canossa, dice. Più dura e burbera, adesso entra nel clima della nuova Italia bersaniana, in cui tutti diventano un po' più laburisti. Anche tu puoi diventare. No, io perché io rimango sempre thatcheriano di ferro. Quando farai le manifestazioni a pugno chiuso per l'articolo 18, ma quando mai, Italia bersaniana. Quando mai? Sai, tra l'altro, a me piace trovare le contraddizioni, scovare le contraddizioni di chiunque, no? Le contraddizioni, o comunque quelle che sembrano delle contraddizioni. Lo stesso Galli, ho fatto un tweet adesso, diceva che Monti doveva continuare anche dopo il 2013 a fare il premier. Adesso con chi si candida in una coalizione che vuole? Premier Bersani, chi? Bersani. Non dimmi che sei d'accordo con Bendon anche sulla questione dei ricchi, Telese, eh? Ma senti, quella è stata una frase strumentalizzata. Ma dai, pure tu parli della frase strumentalizzata. Ha detto, intanto è una citazione che tu conosci bene, di una copertina di Liberation, sublime, comunque la si pensi, proprio appunto era la copertina contro Arnolli, il miliardario che ha detto piuttosto che pagare mi trasferisco. Sì, giusto. E allora giusto. Liberation aveva fatto una copertina, lui con questa foto col com'era, vai al diavolo. Com'era, vai al diavolo. Ha fatto e ha detto vattene a quel paese, brutto stronzo. Questo era il senso della. Ho capito, della però i ricchi devono. Tu lo sai come funziona in campagna elettorale? Cioè, quando uno dice i ricchi vadano al diavolo, beh, oggi il giornale ci ha fatto la prima pagina. Sì, però erano i ricchi che non vogliono pagare le tasse, attenzione. Era l'esempio. Ho capito, ma è stato e soprattutto di Gerard Depardieu. Un grandissimo, non mi toccare Depardieu. Non mi toccare Depardieu. Quando ma i perché ricchi... anche tu vai da Putin? Allora, se uno ha diritto di incazzarsi. Uno ha diritto di incazzarsi quando pensa che la tassazione sia eccessiva. Tu ancora non lo sai, ma queste sono le ultime puntate in cui i tuoi ascoltatori ti sentiranno thatcheriano. Già da febbraio o marzo incomincerai a essere attraversato se vince da un Bersani, mondo laburisti. Se vince Bersani. Intanto Monti candida Valentina. Ma quindi tu sei opportunista e cambi le tue idee se vince Bersani. No, se vince Bersani secondo te mi trasformo. Ma sì, certo, perché entrerai della nuova Italia, la zanzara. Intanto Mario Monti candida Mario non Monti. Non più queste canzonette sbarazzine. Mario Monti candida Valentina Vezzali, te lo dico. Ai, ma schermitrice che ha vinto il bronzo la Vezzali, no. La Vezzali, ma la Vezzali, ma ti ricordi che lei aveva detto che aveva un solo leader politico nella vita, era Berlusconi? Una volta aveva detto questo, dici, la Vezzali, adesso non mi ricordo. Sì, la Vezzali fu famoso, e se ti ricordi c'è una puntata di Porta a Porta che è sempre il cuore. Ah, me lo ricordo con la Vezzali, sì, dell'immaginario, sì. Lei lo toccò. Ah, vero, Ceccarelli ci potrebbe fare, forse ce l'ha fatto anche un pezzo su questa simbologia. No, ma è vero, hai ragione, lo toccò, il toccare. La Vezzali, tu dici, Giuseppe, la Vezzali, da berlusconiana a montiana. Bellissimo, Ma allora, noi che cosa preferiamo? Quelli che erano berlusconiani e sono diventati montiani, o quelli che erano berlusconiani e sono rimasti malgrado tutto, a Salò? Quelli che rimangono a Salò io preferisco. Ma sì, è vero, anche io, Quelli che rimangono arroccati lì a Salò, che poi non è troppo Salò, perché Salò c'ha il 20% quasi, dai sondaggi. Per cui quale Salò? Cioè, Salò e Monti forse. La ridotta è Monti. E tu sei nell'Ohio d'Italia, oggi mi sono letto, la Lombardia, letto tutto, sì. I veri intenditori di politica si sono beccati come una dose di urina la paginona del Sole 24 Ore con le previsioni. Ah, quelle di Dalimonte, sì, quelle di Dalimonte, sì. Ormai Dalimonte è come una droga pesante. Un oracolo. Vabbè, ma quello non è che ci voleva Dalimonte, non è che ci voleva Dalimonte per capire che la Campania, facciamo la Lombardia, magari recuperi regionali, quelle cose lì che possono inchiodare i nostri ascoltatori che allora, giustamente su Twitter Madron dice la Vezzali con Monti, ma non era stata toccata dal CAB? Ce lo ricordiamo tutti. Ci viene dietro. Che pozzo che sei, che pozzo di scienza di politica, Telese. Bravo. Che memoria storica. Che memoria storica. Hai perso un sacco di soldi, ma rimani sempre una memoria storica. I cori dell'armata russa e tutti sentiano che sta iniziando la zanzara. Marco dalla Spezia, 800 24 00 24. Marco. Sì, buonasera. Vada. Sì, le volevo dire questo, che al di là del fatto che l'avrei espresso con parole diverse, però sostanzialmente sono d'accordo con l'affermazione che ha fatto il favoliere delle Puglie ieri, che peraltro non amo. Sono d'accordo per un motivo opposto. Cioè, con te, lei è d'accordo con Mendola? È d'accordo con Mendola? Lo vedi, la nuova Italia. Cioè, che i ricchi devono andare al diavolo? I ricchi che non pagano. Non ha detto questo, dai, su. Allora, Marco? Sono d'accordo perché io sono liberale, vivo comodamente in questa società che mi garantisce le ferie, la casa riscaldata, la casa al mare, la moto, la barca, e vorrei che durasse il più possibile. Una società per durare ha bisogno di coesione sociale. Vendola non ha parlato di ricchi, ha parlato di super ricchi, e quello i greci già lo sapevano, avevano il senso della misura, il meson. Bisogna, questo va ritrovato, è inutile che ci raccontiamo delle palle, fino a quando noi teniamo intere generazioni fuori dal mercato del lavoro. Ma questo che c'entra? Scusi, che cosa c'entra? C'è gente che guadagna milioni di euro. Questa è una che è. Ma anche, scusi un attimo, adesso ci lasciamo travolgere dalle cose. Anche Mario Sechi, anche Mario Sechi è candidato con Monti. No! Anche Mario Sechi! Anche ma Mario Sechi! Ma che dici, Giuseppe? Che sì, stai dicendo? Mario Sechi, Bomba 6 e la Vezzali. Mario Sechi, chiamiamo subito Mario Sechi, su, io non ci posso credere. Ma tu non ti candidi con la lista Giannino, anche per dovere aziendale, no? No, l'aziendale no, perché anzi sarebbe il contrario, forse. Non è proprio dovere aziendale, diciamola tutta. Non è proprio dovere aziendale, non ma sarebbe Mario quello. Mario candidato. Perché ti stupisci? Mario Sechi candidato. Siamo gli unici, perché in questo giro siamo rimasti a terra. Giuseppe, pensiamoci, come mai? No, ma candidati, io non mi voglio candidare. Candidati tu. E neanche io. Ma perché non ti sei candidato con Mendola? Perché dentro il giornalista Corradino Mineo, candidato per il Partito Democratico. Si nasconde questa idea della politica come occasione mancata, persa, e vogliono tornare alla politica. Sì. No? Aspetta, questo è Mario, Mario, stiamo cercando Mario. Parlaci tu. Vodafone, servizio no, di preferenza. No, è candidato, rispondeva sempre. Quando era uno di noi rispondeva sempre. Hai ragione, quando era uno di noi rispondeva sempre. Basta! Questo è Giannino, l'ultima puntata contro lo Stato tassatore. Tutti impazziti. Risentilo, te lo faccio risentire. So che in questo periodo non senti molte cose. Senti questa cosa. Basta! Hai capito? Sì. Non, se vai in politica... Ma è distorto o è proprio in originale così? Basta! Ecco. È così, ti giuro, è così. Io mi sono piegato in due quando l'ho ascoltato in diretta, cioè l'ho ascoltato in diretta così, capito che se tu fai politica... Senti, ma chiamiamo Portas, che è uno di quei personaggi che a me mi eccitano molto, perché Portas è un deputato del PD, sì, lo so, che lo ha so. Un consenter che fa tanti sondaggi. Dovremmo dire quanto può contare una lista della Zanzara capitanata da Telese e da Cruciani? Ma no, qualche lista della Zanzara, ma quando mai? Sì, aspetta, riprova con Mario, parlaci tu con Mario. Mario Sechi, direttore del Tempo, sì, candidato, sì, con Monti. Niente, non risponde più, è troppo importante. Vodafone. No, non è che non risponde più, sa benissimo, magari sta pure ascoltando, capito? Mario, guarda, rispondi, confermaci questa candidatura. Direttore del Tempo, Mario Sechi. L'altro giorno l'ho incontrato a Roma, sbarazzino, con due libri in inglese sulla globalizzazione. Ma certo, ormai... quello studia, è inserito nella trilaterale. No, beh, tutto. È inserito nella trilaterale, non è che fa il coso, dai, su. Allora, Marco, che voleva dire sulla questione di Vendola? Non ho capito. No, stavo dicendo che... Che è stato frainteso? Che è stato frainteso? Il favoliere delle Puglie, diciamo. Vabbè, il favoliere delle Puglie, ok, d'accordo. Da liberale, ecco, ritengo di essere d'accordo con lui, che non ha parlato di ricchi, ha parlato di super ricchi, nel senso che io auspico che questa società che mi garantisce il benessere duri il più a lungo possibile. Affinché possa durare è necessario mantenere la coesione sociale. Noi non possiamo pensare di avere generazioni... Vabbè, ma queste sono parole, su, sono solo parole, le solite parole, bisogna mantenere la coesione sociale, sono cose che... Lei è peggio di un politico, ma non parli per slogan, cioè lei ha la libertà di dire quello che vuole, bisogna mantenere le coesioni sociali, ma che vuol dire? E allora, ma è giusto che uno che guadagna milioni di euro non sia massacrato dalle tasse, anche uno che guadagna milioni di euro, e certamente non deve andare al diavolo, e se si sente super tassato può anche avere la libertà... Come? Mi ha mandato a cagare, capito? Vedi che tu difendi i ricchi. Beh, allora, per quello che riguarda gli sportivi, Monti candida Lavezzali. Già sai, Luca, della candidatura di Josefa Idem, no? Col Partito Democratico, ha fatto addirittura le primarie. Mitica, dai. Ha fatto le primarie. Beh, Berlusconi come risponde, secondo te? Beh, deve rispondere, che ne so, con Ibrahimovic. Sì, certo. Invece? Non si può candidare, che ne so, boh, invece ancora non si sa. Baresi. Eh? Beppe Baresi, sì, però insomma non è... Cioè deve rispondere con qualche olimpionico di adesso, perché Josefa Idem, Lavezzali... Ma sai che sto ricevendo dei messaggi contro di te? Perché? Dico, dai, menalo di più Cruciani su questa cosa che difende i ricchi che non vogliono pagare. Certo, io difendo la libertà di Depardieu o di chiunque si senta vessato dal fisco, perché la cosa di mettere il 75%... Aspetta, fisco. La storia di mettere il 75% oltre un milione di euro, tu sai che ha incontrato grandissime difficoltà anche in Francia. È stato bocciato la Corte Costituzionale. Esatto, ma è comunque ha difficoltà. Chiunque si senta vessato ha il diritto di andare ovunque. Questo è un principio liberale da difendere assolutamente. Sì, dunque, però, scusami, a me non mi interessa se vai da Putin. No, ne vai da chiunque altro, non mi interessa. Eri uno spirito libero prima di corromperti, prima della convivenza con Parenzo, prima di tutto, ma tu per avere un cacchio di sconto di 2 lire sulle tasse, ma diresti che la Russia di Putin è il paese delle libertà? Dai, ti prego. Quelli sono gli eccessi di Depardieu. Io sto difendendo il principio, a me non mi interessa di Depardieu, eccetera. Io sto dicendo che il fatto che Depardieu abbia fatto questa battaglia contro Hollande va assolutamente a suo merito. Cioè, per me è il numero uno Depardieu con questa battaglia qui. Cioè, poi non mi interessa quello che ha detto su Putin, quello è tutto contorno. Il fatto che abbia fatto questa battaglia contro il fatto, costringendo... Ma vuol dire che per 3 punti di aliquota uno è disposto a vendersi la madre, dai, con le Pussy Riot in carcere, la Politkovskaja gli ha sparato e quello lì va a dire che la Russia è il paese delle libertà, dai. Ma viva le tasse. Ha detto che è il paese della libertà, non credo. Come ha accettato la cittadinanza onoraria, si è fatto fare la foto opportunity nella dacia di Putin, dai. Comunque Franco Baresi, non Beppe Baresi, Luca, qui mi correggono giustamente, adesso io manco ci ho fatto caso. È un errore, dice. Franco Baresi. Anche Beppe, che c'hai contro? Ma che io non c'ho nulla contro, quello fa l'allenatore, il vice allenatore là all'Inter, credo, per cui di che parliamo, dai. Fabio da Grosseto, buonasera. Buonasera a tutti, ma infatti è in questo modo, è il principio che va salvaguardato. Dicevo di Berlusconi, che quando dice che il Presidente del Consiglio in Italia non ha poteri, infatti il Presidente del Consiglio in Italia non ha poteri, Ma basta con questa storia di Berlusconi che dice che non ha poteri il Presidente del Consiglio. Ma basta, Fabio. Purtroppo se non risolvono questo. Ma non è vero, non ma non è avanti. Questo. Aveva 100 deputati di maggioranza. Su, Fabio, ma basta con questa storiella. L'unica volta che succede, è fare, l'unica però. Volta che è successo, perché abbiamo due parlamenti che ognuno. Sì, Fabio, che ci sia un problema, che ci sia un problema di decisioni in Italia, la burocrazia, il capo del governo almeno. Siamo d'accordo, però basta con questa storia, basta con questa storia. Cioè, uno non può riproporsi 20 anni dopo dicendo io non ho poteri, bisogna dare la maggioranza a un solo partito. È una cosa ridicola, sì. È un argomento ridicolo. Ma ha detto la verità, però ha detto la verità. È quello, soltanto quello. È quello. Vabbè, comunque, ha capito? E poi non c'è denaro, è inutile che la Banca Centrale Europea non immetta denaro e qui non c'è lavoro, non c'è lavoro, qui si licenzia tutti. È quello che ora qualcuno mi suggerisce sì, non mi voglio accanire sulle contraddizioni di Galli che per carità è un solo candidato all'interno del Partito Democratico eccetera, però qualcuno mi suggerisce che aveva sottoscritto anche il manifesto di fermare il declino, cioè il manifesto di Giannino, che non è proprio un manifesto che va d'accordo con conversione. Ah, tu dici la conversione, Ma sì, ma presto ci saranno i miliardari che chiederanno di pagare le tasse nell'Italia di Bersani, ci sarà la zanzara che fa i cori bolscevichi, ci sarà Giannino che predica interventi keynesiani, cambierà tutto, tutto! Senti la Vezzali che baciava Berlusconi, che toccava Berlusconi, scusa, che baciava mi pare troppo, che toccava Berlusconi da Vespa, appena candidato da Monti, Vediamo come se la cava. No. Io non potrei mai, nemmeno con un fiore. Presidente, io da lei mi farei veramente toccare. In senso tecnico, voglio dire. No, in senso, la in senso tecnico. Ma non, in mettiamo senso qua il ricorrente, ma non posso qua. Mettiamo con un fiore, vabbè. Forse. Mettiamo qua. Con un grazie. Fiore. Grazie, vabbè. Complimenti. Allora. Audio canta, qui rispolveriamo in tempi velocissimi. Pare. Luca, guarda, senti quest'altro in cui lo elogia, senti. Presidente, io le ho portato un fioretto per scambiare anche due stoccate insieme a lei, un fioretto particolare dove ho, fatto incidere al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con sincera stima, Polizia di Stato e qui la mia firma Valentina Vezzali. Onorato. Io le vorrei donare questo fioretto. Continua la sleccatina, continua la Vezzali, adesso candidata per Monti, cari ascoltatori della Zanzara, come cambiano le cose, sentite questa slinguata. Per questi problemi che l'Italia si trova a dover affrontare, ma io sono sicura con persone come lei, con persone come me che tutti i giorni si allenano con fatica e con sacrificio, ma credono nei grandi traguardi. Io sono convinta che l'Italia un giorno potrà guardare a testa alta tutte le altre grandi nazioni. Basta! Basta! Basta! Ma che dire, caro Telesa, dopo questo? Ti ho detto che c'era un tocco erotico, Ma che, anche perché eravamo nella fase oggettina alta, nell'età alta oggettina. Adesso questo non lo so, però cosa aggiungere dopo quello che abbiamo... C'era un anche di seduttivo della Vezzali nei confronti di Berlusconi, ma voglio dirti una cosa, secondo me questo tradimento è, attento tieniti forte, è quasi peggio della Carlucci che è diventata dell'UDC. Beh sì, sicuramente, cioè la Carlucci... Cioè, siamo a questi pure Berlusconi, guarda, pure la Carlucci con Berlusconi ti assicuro che ne ha dette di cotte e di crude, È proprio è come se Straguadagno si candidasse con Casini. Beh, si candida quasi con Casini in realtà, Si vuole con candidare nella coalizione con Casini, con Monti. No, ma non entrerà mai, Straguadagno è l'infiltrato. Non lo fanno entrare, forse non lo fanno entrare, ma lui si vorrebbe candidare con Monti, cioè con Casini, e dunque con Casini contro Berlusconi. Oh no, allora non c'è più. Ma non sei più informato, Luca? Com'è che non sei più in questo paese? Non sei più informato. No, ma non credo che lui voglia. Io credo che lui sia un infiltrato del Cavaliere. Credo che sia come la talpa, capito? Ma lo sai che Reggi? Lo sai che Reggi non si candida? Sì, lo sapevo. E cioè il braccio destro, il braccio destro di Renzi. Posso dire un retroscena? Dimmi. Reggi l'hanno segato. Cioè chi l'ha segato? Perché durante la campagna delle primarie ai bersaniani gli è rimasto faccio il dito, sai, quando sì. indico il dito la mandibola. Ah, tutte le frasi, tutte le frasi che ha detto Reggi contro Bersani, torna al Partito Comunista. Reggi è stato, ti ricordi, a mascalzoni, cose. Come parti, no, come regole. No, certo, certo. Cioè, come quindi no. il suo capo si è accomodato e lui è rimasto fuori. Ah, la Vezzali dice, questo non vuol dire che abbandonerò lo sport, almeno fino alle Olimpiadi di Rio. Cioè, cosa significa, scusa, che resta, è candidata con Monti? La deputata olimpica. La deputata olimpica, cioè la deputata fiorettista, cioè la deputata... Ma tutti rendi, no, guarda, per oggi è troppo, per oggi mi sto... No, che troppo, aspetta, prima di tornare da Enrico, aspetta un attimo, che c'è Enrico là, il signor Enrico Telese in Berlinguer, aspetta un attimo, che se, lo sento nel sottofondo, lo sento. Signor Enrico... Telese Imberlinguer. Marco Enrico da Pistoia. Telese basta. Ciao. No, scherzo. Aspetta, fermo. Dove vai? Che ci abbiamo, dai, abbiamo... Domani illumino di nuovo questo aspetta, programma. Abbiamo da fare. Abbiamo da fare un'intervista. Aspetta un attimo. Aspetta, aspetta. No, non ce la faccio. Ma ti come? Saluto. Aspetta! Aspetta. Già che manco. No, aspetta un secondo. Aspetta. Aspetta un secondo. Aspetta. Non ce la faccio. Ma come no? Ma che fai? C'ho la congiuntivite. Dai, aspetta un secondo, aspetta un secondo. No, c'ho veramente... Aspetta, 5 minuti. Aspetta 5 minuti. Ma che ti frega? Stai lì con Enrico, aspetta un attimo. Ciao, ciao. Dai. Pronto? Ci sei o no? Pronto? Luca? Niente, vabbè. Basta! Raffaele da Brindisi. Sì, vorrei dire una cosa sull'ultimo argomento che stavate trattando per quanto riguarda la virata della Vezzali. Forse non suscitava le aspettative del signor Silvio Berlusconi, almeno la Minetti forse era un po' diversa e allora ha potuto fare quello che hanno fatto. Cioè? Quello non che ho volevo... capito. No, vabbè, che c'entra adesso la differenza tra la Vezzali, la differenza tra la Vezzali... Qualità per poter fare quello. Ma non c'entra nulla, non c'entra niente. Che non è stata niente, presa in considerazione e ha virato su Monti, che l'ha presa in considerazione. Non c'entra nulla. Quello che volevo dire era quest'altra cosa qua. Vorrei mettere in evidenza quelli che si ostinano a continuare a votare. Come mai la Mediaset, che ha avuto un tonfo quando Berlusconi si è dimesso, nell'ultimo periodo, a cavallo tra il 2012 e il 2013, detto dalla vostra radio, ha recuperato circa il 30%, tenendo presente quello del precedente periodo, ha circa recuperato il 50%. Non lo so, guardi, questo gli andamenti... Che suscita, sì, suscita sì. Le attenzioni di chi gioca in bozza e sa che quando Berlusconi è al governo, Mediaset va a gonfie vele. Vuol dire che qualcosa di strano succede? Sì, può darsi. Sicuramente l'andamento del titolo Mediaset dipende anche dalle vicende politiche italiane, su questo non c'è dubbio. E poi una piccola cosa devo aggiungere. Sì. Lei sta parlando tanto dell'arrabbiatura dell'attore francese, perché gli stanno toccando il 75%. Sì. E noi poveri cristi che ci stanno prendendo 38 euro... Ma questo non c'entra niente, questo non c'entra nulla, non è un argomento. Nel piccolo è come se fosse il 75% del miliardo, perché ci continuano a togliere i soldi. Se hai più di 5.000 euro aumenta l'imposta di bollo. Non ho capito, uno che riesce a mettere 10 lire da parte, 10 euro da parte per i figli, tu mi vieni a prendere quelli, i miei risparmi che mi sono privato di tante cose e ti prendi ancora questi soldi da lì. Ma sono stati già tassati quei soldi, se io sono un lavoratore dipendente, perché mi continui a tassare? Sì, però scusi Raffaele, d'accordo, però cosa c'entra questo con l'incazzatura e con la fuga di Depardieu in Russia? Beh, tutto quello che il signor Silvio Berlusconi ha fatto. Ma cosa c'entra adesso Berlusconi con Depardieu? Come lui, no, ma non solo Silvio Berlusconi, anche i precedenti governi. Cioè, dicono che fanno qualcosa per noi e poi ci mettono in condizioni di toglierci tutto quello che noi guadagniamo. Guardi le assicurazioni, ci obbligano a fare la moneta elettronica e ci aumentano i redditi. Va bene, grazie. Prego, Marco da Pistoia, buonasera. Buonasera. E allora. Nulla, io devo dire... Tutto. Sì, dica Marco, dica. Sì. No, anch'io difendo Vendola, perché io mi rifondo un dato che ho sentito qualche settimana fa in televisione, che diceva che praticamente in Italia si dichiarano di avere più di 1 milione di euro l'anno sono 800 persone. Sì. Sembra possibile. Sì, ma ho capito, Vendola, ma Vendola ha detto... Vendola manda per cagare tutti quegli altri che non pagano le tasse. Sì, questa ovviamente sì, però quando c'è la campagna elettorale uno se ne esce con una frase di questo tipo: i ricchi vadano al diavolo, perché l'abbiamo isolata, è vero che va sempre messa in un contesto, poi alla fine quello che conta è il risultato finale, cioè il risultato finale, quello che appare ai più è che ha detto i ricchi vadano al diavolo, al di là del ragionamento che era su Depardieu e sugli evasori, è normale che era su quello, non ha mandato tu pure i ricchi al diavolo, si stava parlando dell'evasione fiscale e della sortita di Depardieu e della fuga di Depardieu in Russia, dopodiché quello che resta nella comunicazione è quello, ha capito o no? Ed è un errore clamoroso secondo me. Ma è come quando per Berlusconi dice che chi vota a sinistra è un coglione, che i comunisti sono un coglione, è chiaro che va contestualizzato come una frase letterale, però fondamentalmente anche difendere i ricchi a un certo punto ha un po' rotto le scatole, perché la gente veramente non arriva alla fine del mese, non è qualunquismo, è la verità. Sì, ho capito, probabilmente, ma... se, cioè, probabilmente se chi ha di più pagasse un po' di più per un momento, per far riprendere un attimo lo Stato, per far risparmiare chi ha un po' di meno, non sarebbe male, cioè, non mi sembra una cosa così brutta, così antidemocratica. E Depardieu, che va da Putin, effettivamente, cioè, perde tanto, perché anche per me Depardieu è un grandissimo personaggio, sì, ma dal momento che va da Putin, effettivamente casca. Grazie, grazie. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito. Ed è con noi Renata Polverini, governatrice uscente del Lazio. Buonasera, come sta? Insomma, un po' raffreddata, diciamo che nel periodo... Senta, siamo Polverini, ma si è capito quello che succede nel Lazio? Prima si è candidato Storace con l'appoggio di Berlusconi. Cioè, dice, Berlusconi ha detto il candidato ideale, un perseguitato dalla giustizia, eccetera, eccetera. Adesso il PDL candida la Polverini. Sì, la Polverini. La Lorenzini. La Lorenzini, scusi. Mi piacerebbe essere candidata, essere di nuovo candidata. Sì o no? Lei aveva detto, Parliamo di Storace e della Lorenzini. Dopo parliamo pure di lei. Ma allora, lei chi appoggia, per esempio? Chi le piace di più? Ma guardi, io su Storace mi sono già espressa, ha già fatto il presidente della regione, conosce le materie, è sicuramente un politico strutturato per una campagna elettorale che sicuramente sarà difficile. Beatrice ha degli elementi di freschezza, diciamo, che in questo momento possono, come dire, possono essere interessanti. E in dunque? Ogni caso ancora non si è deciso, io penso che si deciderà nelle prossime ore, tutti e due possono offrire garanzie di portare una battaglia sicuramente fino in fondo con grande dignità, e soprattutto a me interessa che il futuro candidato combatta per vincere e soprattutto per portare avanti il lavoro che la giunta Polverini ha fatto e che è stato invece offuscato dalle recenti finali. Notizie di cronaca. Ecco, però scusi, come la dice Polverini, ma chi dà più garanzie di vittoria secondo lei, Storace o Lorenzin? Ma guardi, sono due candidati sicuramente diversi. Non giriamoci intorno. Lei chi prevede, secondo lei, qual è il candidato che ha maggiori possibilità? Guardi, io in questo momento non mi esprimo per preferenza, perché sarebbe scorretto nei confronti di un partito che comunque sta ancora in queste ore discutendo, perché tutti siamo interessati ad avere il candidato. Ho capito, ma non è il candidato ufficiale, la Lorenzin. Anche tutte le forze possibili, no? Noi abbiamo il PDL, abbiamo la destra, abbiamo Fratelli d'Italia, insomma ci sono delle forze politiche che debbono ritrovarsi in un candidato per sostenerlo con forza, con consapevolezza e con convinzione. Quindi io al momento, se mi esprimessi, farei un torto. Beh, però è un mezzo pasticcio, perché da una parte Berlusconi in corona Storace, dopodiché poi diciamo che in questo momento è tutto un po' un mezzo pasticcio. Lei che fa invece? Io mi auguro di rimanere impegnata in politica, cioè una si cosa candida, che insomma, mi piace si candida, su, diciamo. Vorrei essere sicuramente espressione del PDL, ma insomma siamo tutti al lavoro. PDL, PDL, perché diciamo qualcuno stiamo lavorando tutti per cercare di continuare a dare a questo paese un centrodestra che mi pare lo possiamo dire che sarà necessario. Lo può dire che sarà candidata col PDL? Ma guardi, io in questo nessuno può dire nulla. Mi piacerebbe poter continuare sicuramente in Parlamento nel PDL, impegno politico. Nel PDL? Certo. Perché qualcuno ha scritto Grande Sud. No, guardi, noi stiamo lavorando con Grande Sud insieme ad altri presidenti di regione, in particolare con i presidenti di regioni che si presentarono con delle proprie liste civiche, quindi Caldoro, Scopelliti, e io, come ricorderete, avevo la mia lista civica che poi si è trasformata in una fondazione. Con queste, diciamo, liste civiche stiamo dando un contributo a Grande Sud, che comunque è in coalizione con il PDL. Per cui comunque, quindi, se lei dovesse essere candidata politico del centro destra, i governatori non saranno candidati in Grande Sud. Se lei sarà candidato come sarà sicuramente, questo lo dico io ovviamente, lo sarà col PDL, non con Grande Sud, giusto? No, certo col PDL. Ma le piacerebbe di più la Camera o il Senato? Così, tanto ma guarda, io sono, diciamo, nuova ad entrambi i rami del Parlamento. È uguale. Quindi, purtroppo devo dire, ho l'età per il Senato anche. Ha pure l'età per il Senato. Comunque, insomma, è uguale, per lei è uguale. Detto da donna, dico purtroppo. Capolista comunque, sicuramente sarà capolista. Ma guardi, io diciamo che questi tecnicismi ancora non ci sono entrata. Ma con Berlusconi ci ha parlato? Come? Con Berlusconi ci ha parlato della candidatura? Ma certo, sì. Tutti abbiamo parlato con Berlusconi, ci mancherebbe altro. Le ha assicurato questa candidatura? No, come? Me lo dica. Le ha assicurato la candidatura? Me lo dica. Ma non è questione di assicurare, non è che siamo al mercato. Insomma. No, se vabbè. Il mio ruolo è un ruolo che viene considerato utile al progetto, sicuramente ci sarà. Senta, qualcuno ha ironizzato sui 70 distruggi documenti comprati a fine mandato per 14.000 euro. A me non me ne frega niente di questi piccoli dettagli, però hanno scritto, beh, insomma, magari è sembrato strano che la Regione Lazio, no? Guardi, noi abbiamo ereditato dalla precedente legislatura 220 tritacarne che erano nel magazzino. Sì. In 20 mesi ne sono stati acquistati altri 20. Parliamo di un ente che ha 6.000 dipendenti, per avere le proporzioni. 15 giorni fa il funzionario, questo è quello che mi è stato detto ovviamente dal capo dipartimento, ha esaurito le scorte in magazzino e quindi lo ha riempito con altri 70. Ne poteva comprare di meno? Non lo so, questo naturalmente non compete a me né tantomeno alla Giunta. Ma poi a che servono se distruggi i documenti? Ma in tutti gli uffici ormai ci troppa sono carta, troppa carta, troppa carta. Perché, esatto, bravissimo, perché c'è troppa carta, ha proprio ragione. Guardi, io ne ho uno nel mio ufficio che probabilmente in questi 3 anni non ho mai usato, perché effettivamente considero sempre la carta. Ma uno può comprare a fine mandato 70 distruggi documenti? Ma non è a fine mandato, l'amministrazione non ha una fine di mandato, è la politica continua, che ha una fine mandato, ma la burocrazia, i funzionari, loro stanno lì, cioè non è che stanno a guardare, siccome ci sono le elezioni non posso comprare i tritacarte, quello è un lavoro delegato a loro e ci mancherebbe altro che la Giunta o il Presidente si mettono a comprare la carta piuttosto che il tritacarta. Questo è un qualcuno fatto ha detto avviene, documenti scomodi da Bellanto, non è che sì, questa è una stronzata. Tra qualcuno... l'altro guardi che tutto quello che viene fatto in regione è un atto pubblico ed è in rete, quindi non c'è nulla da distruggere. Però insomma, mi dica la verità, io sono curioso di queste cose di Storace e Lorenzini. Lei ha detto che è un pasticcio pure questo, innanzitutto questo. Però tra i due, lei che è stata appoggiata da Storace... Guardi, anche se... le posso dire, Storace mi ha appoggiato... mi ha sostenuto. Anche se poi litigato con Lorenzin è stata la mia portavoce in campagna elettorale, quindi capirà l'imbarazzo di dover scegliere, quindi non me lo farà dire. Lo so, però Lorenzin appartiene al PDL, Storace è un altro partito, forse Storace è troppo limitante, altri non lo so. Diciamo che c'è una discussione chiaramente proprio per questo, no? Perché i candidati sono entrambi validi, ma è proprio quello che lei ovviamente faceva notare, il centro del problema. Il PDL probabilmente ritiene di dover in qualche modo portare a casa il candidato presidente. Questo poi incide anche sui seggi che ci saranno in regione, ma non solo, perché c'è la concomitanza con le elezioni politiche. Ma Storace non molla, no? Non molla facilmente Storace. Non molla l'osso. Non molla l'osso. Lo conosciamo bene. Non molla l'osso. Senta, però, non voglio, per carità, poi abbiamo poco tempo, riprendere tutta la vicenda, ma lei ammette di avere fatto... ovviamente degli errori politici si fanno sempre, qualche cazzata nella vicenda dei soldi ai gruppi, una si usa questo termine perché lo capiscono tutti, cioè una stupidaggine, un errore clamoroso, quella che io chiamo cazzata. Guardi, io credo di aver fatto una cosa un errore abbastanza apprezzata. No, ma mi un errore dimessa perché mi sono assunta la responsabilità politica pur non avendo nessun tipo di responsabilità amministrativa di ciò che è accaduto. Quindi se l'ho fatto è perché... Però l'errore che ha fatto, avrà commesso un errore, non aver controllato troppo, aver incassato i soldi dei gruppi... Ma non potevo controllare perché probabilmente i due... non probabilmente, le persone non hanno capito che il Consiglio vive di una sua autonomia, di una sua indipendenza, il Presidente della Regione non può intervenire. Però anche i rappresentanti della sua lista hanno preso i soldi di quei... Perché... Dopodiché i rappresentanti della lista hanno avuto ovviamente, come tutti gli altri, a disposizione quelle somme, che hanno speso però per una parte per l'attività normale, il resto è ancora sul conto corrente, quindi diciamo che poi ci sono stati comportamenti un errore personali. Non l'ammette, un errore che no, ha fatto io uno. Mi sono dimessa, più di questo non è un'ammissione però... è un'ammissione di responsabilità amministrativa, ma sicuramente voglio dire più di quello che potevo fare. Magari qualche uscita pubblica nei giorni successivi, qualche... cioè? qualche uscita, adesso non mi ricordo adesso le frasi esatte, qualche uscita pubblica nei giorni successivi allo scandalo. Beh, tenga presente che io sono stata, diciamo... Ma lei poi ha un carattere particolare. Ho un carattere particolare e mi sono operata alla tiroide il 25 di agosto. Tutto questo è accaduto una settimana dopo, quindi è accaduto anche in un momento molto particolare della molto mia stressante. Vita. Senta, quindi... imboccherà di nuovo Bossi, se capita? Ecco, no. Quella è una cosa della quale mi sono pentita, perché non mi aspettavo che mi creasse talmente tanta attenzione, dunque, non lo soprattutto farebbe. Pubblicità negativa. No, oggi sarei più prudente, non lo farei, anche se lì l'ho fatto veramente così. Però state di nuovo con la Lega, insomma, state... era un momento in cui stavamo facendo un gesto simbolico per dimostrare che ci parlavamo. Vi ricordate, c'erano state polemiche tra Nord e Roma e non immaginavo mai di finire addirittura su dei manifesti che hanno riempito almeno la città di Roma. Senta, il direttore del Tempo lo conosce? Il direttore del Tempo lei lo conosce? Sì, lo ovviamente conosco, sì. Appena visto che si candida con Monti, del resto qualche dubbio c'era venuto. Perché? Perché quel giornale era stato, come dire, è rimasto fino a stamattina molto attento all'attività del presidente Monti, altri giornali invece da qualche giorno hanno cambiato un po'. Oye, che Mario Sechi era un sostenitore, sia stato un sostenitore di Monti in questo anno, non c'è il minimo stato, dubbio. È stato, sì, a spada tratta, come si dice. A spada tratta. E con lei è stato... Se si candidasse, guardi, io sinceramente non me l'aspettavo, però gli faccio gli auguri. Senta, ma Berlusconi di nuovo con la Lega, di nuovo questa alleanza con la Lega. Ma del resto, sai, questa è una partita molto complessa. Matrimonio di interessi e basta. Bisogna assolutamente avere degli alleati per provare a vincere, perché comunque in politica quando si compete si cerca sempre di vincere, no? Di portare a casa il risultato più importante. Alla fine le alleanze richiedono dei sacrifici, mi pare che Berlusconi ha fatto un sacrificio enorme nell'interesse chiaramente di tutti quanti noi, no? Perché se questa alleanza poi c'è, evidentemente c'è una partita aperta che in assenza di alleanza invece non ci sarebbe stata. Va bene, grazie, a presto. Grazie. A presto. Antonio da Siracusa, buonasera. Buonasera, io volevo intervenire giorni fa, poi non c'era spazio e chiamo adesso. Vada. Sì, no, niente, nei giorni scorsi si parlava di sigle razziste, di gruppi razzisti, comunisti, insomma fascisti, però io credo con quello che diceva Vittorio Foa nel suo Novecento, che il Novecento è stato il secolo che ha visto nascere... No, però Vittorio Foa no, abbia pazienza, alle 19.57 Antonio, alle 19.57... Ma sto dicendo fesserie, guarda, questo no, fesserie, è il padre nobile della sinistra, ma era sì, uomo certo, molto certo. Obiettivo, diceva, guardate sì, che sono nate e sono morte nel Novecento, quello che rimane, sai che cos'è cruciale, credimi, cos'è, che ho fatto un'ispezione, quello che rimane sono i nipoti nobili, capito? Rimane il nipote del nazismo, il nipote del fascismo e il nipote del comunismo, sono ormai americani, non ci sono più le idee, capisci? Capisco. Vai a cercare, si ritrovi veramente. Sì, è ancora a casa. Ecco, senta, io ho sentito un intervento ieri sera di un signore che voleva parlare del nuovo movimento di Oscar Giannino di fermare Pepino. Sì. Ecco, allora le volevo dire che io sono una neofita della politica, avevo deciso di non andare a votare perché sono nauseata da questi vecchi politici, sono nauseata un po' anche dai giornalisti che non parlano mai di questi nuovi movimenti. Ma non è vero, Tiziana, scusi, ne parlano molto poco, perché le faccio un esempio. Io casualmente ho scoperto che si stanno raccogliendo le firme in tutta Italia, nei gazebo, per raccogliere le firme perché questa lista di Oscar Giannino. Sì, ma scusi Tiziana, ma non è un obbligo informare sul fatto che ci siano i gazebo per le firme? Abbia pazienza, scusi. Certo che non è un obbligo. E allora, dai, su. Però io vorrei, mi piacerebbe. Ma fino all'altro giorno parlasse. Era qui in questa radio Giannino, di che sta no, parlando? Sto dicendo che casualmente sono venuta E vabbè, casualmente si sanno tante cose casualmente. Ecco, mi sto documentando. Mi sto entusiasmando a questo nuovo movimento di Oscar Giannino e soprattutto le vorrei dire che l'assuefazione al potere è un dato di fatto. Cambiare le persone fa bene. Ci vuole Ma questo sono d'accordo con lei, ecco, ricambio fa bene. Perché dobbiamo smettere di continuare a centrare l'attenzione continuamente sui vecchi politici e soprattutto su queste coalizioni. Ma non è che bisogna, dipende anche dalle idee, un po' di ricambio ci vuole, ma dipende anche dalle idee. Ci sono dei nuovi che hanno idee pessime, magari, no, oppure idee questo nefaste. Non è il caso di Giannino. Ma lasci perdere, dei vecchi, lasci perdere la propaganda per Giannino, non mi interessa. Adesso no, faccia... non è una propaganda, io ero scusata dalla politica, mi sono entusiasmata. Benissimo, si è iscritta a questo movimento, voterà per Giannino, si figuri, cioè anch'io probabilmente lo voterò, per cui di che stiamo parlando? da Berlusconi a Monti, la Vezzali, campionessa olimpica italiana della scherma, eccetera, eccetera, qui in una performance che molti di voi ricorderanno a Porta a Porta. Presidente, io le ho portato un fioretto per scambiare anche due stoccate insieme a lei, un fioretto particolare dove ho, diciamo, fatto incidere al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con sincera stima, Polizia di Stato, e qui la mia firma Valentina Vezzali. Onorato. Io le vorrei donare questo fioretto. So che l'Italia sta attraversando un momento molto molto difficile e che questo fioretto le possa, anche se in maniera molto simbolica, la possa aiutare a risolvere questi problemi che l'Italia si trova a dover affrontare, ma io sono sicura con persone come lei, con persone come me che tutti i giorni si allenano con fatica e con sacrificio, ma credono nei grandi traguardi. Io sono convinta che l'Italia un giorno potrà guardare a testa alta tutte le altre grandi nazioni. Questa la sviolinata Porta a Porta, Poi si continua. Vediamo come se la cava. No. Io non potrei mai, nemmeno con un fiore. Presidente, io da lei mi farei veramente toccare. In senso tecnico, voglio dire. Grazie, complimenti. Allora, e anche tanti ringraziamenti, Valentina, perché ha portato con la sua attività in tutti questi anni grande lustro a tutti noi e al nostro paese. Grazie. Allora. Giovanni da Napoli, buonasera. Valentina Vezzali è candidata con Monti, annunciata oggi insieme al direttore del Tempo Mario Secchi e a Bomba 6, Confindustria, ex Confindustria. Giovanni, dica. Buonasera. Dica. Dunque, la mia domanda, premetto innanzitutto che io non ho nulla in contrario della candidatura del professor Monti alla Premier, però mi domandavo, visto e considerato che è stato fatto tanto polverone sul fatto che chi è senatore a vita non può assumere questa candidatura, come mai adesso è tutto tacito e nessuno prende in cambio nulla in relazione a questa? Non ho capito nulla, scusi, che cos'è? Non si può candidare, infatti non si candida Monti. Ah no, allora ho inteso io male. Giovanni, non si candida in Parlamento, lei è rimasto indietro o comunque non ha capito bene, non si candida in Parlamento, è il capo della coalizione, candidato premier, lo chiami come vuole, della lista Monti, insomma di questa lista civica, più Futura Libertà, più l'UDC, ha capito o no? Adesso sì, adesso è più chiaro. Scusi, ma era chiarissimo, lei non so quanto segue le cose della politica, per carità non è un obbligo, comunque è senatore a vita, non si candida in Parlamento perché è già senatore a vita, ha capito o no? Infatti, era questa la mia domanda, non avevo inteso la differenza sostanziale. Beh, per forza Giovanni, altrimenti comunque lui può fare il premier, può essere indicato nelle liste, può essere indicato come capo della coalizione pur rimanendo senatore a vita, questo non è d'impedimento. Ho capito, va bene. Va bene, grazie. Mauro da Mantova. Salve, cruciale. Sì. Volevo dire, ma gli italiani dormono? Ma in quale paese succedono i fatti che sono successi negli ultimi due anni in Italia? Solo in Italia, perché altrimenti in un altro paese sarebbero già insorti i cittadini. Per esempio? Purtroppo noi italiani siamo un popolo di pecorari. Ma non ho capito perché, perché? Perché? Mi si rendi perché, cruciale? Ma come si fa per mettere che il cognato del primo evasore fiscale a uno che paga le tasse in Svizzera, del Benedetti Carlo, che venga fatto senatore a vita? Ma chi? Da un presidente della Repubblica, ma il presidente della Repubblica. Ma chi ha fatto senatore a vita? Scusi. Perché Monti chi ha fatto senatore a vita? Mia sorella. Sì, ma che c'entra Monti? Monti mica paga le tasse in Svizzera, scusi. No, ma suo cognato sì. Ma chi è il cognato? Chi è il cognato? Ma che c'entra? Ma Mario, a parte che non è vero che paga le tasse in Svizzera, ma comunque... Ma chi l'ha detto? No, non le paga le tasse in Svizzera. Ma chi l'ha detto lei? Non le paga le tasse... De Benedetti non paga le tasse in Svizzera. Mario, non dica stupido. Poi che c'entra Mario De Benedetti con Monti, scusi? Ma c'è cognato? Ma che cognato? Ma c'è cognato io? Oddio, perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Ma quale cognato? Quale cognato? Siamo tutti imbecilli. Adoro quest'uomo, il mitico Semproni, commentatore sportivo e non solo a Pescara. Sentite cosa dice sui tedeschi. Si parlava all'epoca di Schettino, le critiche di Schettino, su Schettino da parte dei tedeschi, il dialetto. Poi mi deve chiamare qualcuno, qualcuno da Pescara per la traduzione simultanea. Faccio questo appello, mi chiami qualcuno per la traduzione simultanea. Intanto beccatevi questo, Semproni sulla Germania, numero uno per me della settimana, forse se non addirittura dell'anno. L'anno quale? 2012? No, forse cominciamo con 2013. Avete 7-8 milioni di gente, state a parlare, avete perso una guerra assurda, avete tenuto le mezze pazze là e ci state a dire a noi di Schettino. E poi succede nella vita, ma non è che con una persona ci identifica la cultura di un paese e la dignità di tanti uomini, capite? A me mi fa incazzare terribilmente. Andiamo avanti, ci cazzi dei tedeschi, ste crocca esse, che mangiano solamente le piuste. Sapete manche chi è l'utemballe voi? Ma avete imparato a mangiare qua quando venete? Ma dove presentate? A dove è? Sapete quanti buone le rostelle? Se sapete a dove le mettevi le rostelle, caro mio? Andiamo avanti. Quest'ultimo passaggio non mi è chiaro. Ancora, ancora, ancora. I tedeschi dicono gli italiani sono un po' tutti come Schettino. Ma chi stai dicendo? Voi avete fatto gli spragilli. Ma proprio voi parlate. Un popolo che si dovrebbe stare zitto per 100 anni, ricordo, miliardi di anni, memoria, per tutti i casini che avete fatto. E mo siete a 19. Capite che siamo tutti noi, abbiamo l'Italia, un grande paese, ha una grande bandiera. Come vi permettete? Il sistema al potere avesse fatto la guerra contro di voi per questa stupidaggine. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Certo, la mimica non la potete vedere, non la potete vedere. Però questa mattina Giannino Adagorà, a proposito di Berlusconi e... E chi è? No, è Maroni. Berlusconi, vabbè, sentiamo. Il signor Berlusconi, oh, capito questa parola? Berlusconi, Tremonti, quelli che dicevano che loro erano lì perché la borghesia produttiva del nord pagava troppo, eccetera, eccetera. Bastava che avessero tenuto la spesa pubblica ferma in termini reali e oggi avremmo un debito pubblico, quei 700 miliardi in meno, invece di 2000 miliardi. Ad occhi chiusi stringo il mio orsetto. Invece, siccome la spesa è cresciuta perché il signor Berlusconi e il signor Tremonti hanno preferito spendere. Faceva così Berlusconi con le dita, con le mani così, tipo bla bla bla, credo. Come a intendere bla bla bla. Mario da Milano, buonasera, Mario. Sì, buonasera. Io entravo perché ho sentito prima l'intervento della Polverini. Sì. E questo mi conferma ancora una volta lei Cruciani che non è abbastanza duro con i politici. Perché quando le ha detto la Polverini... con l'alleanza con la Lega la si fa per vincere a ogni costo, sì. Lei non ha risposto nulla. E che devo rispondere? Cioè, mi basta questo studio per dire che è un'alleanza di interesse in cui non c'è condivisione quasi di nulla, o comunque c'è stata una divisione. Adesso su Monti sono riuniti nella critica a Monti, insomma. È un matrimonio di interesse, ma guarda che di matrimoni di interesse ce ne sono tanti, non sono solamente quelli tra Lega e Berlusconi, Cioè, è la realpolitik. Sì, ma il matrimonio di interesse in questo caso è gravissimo. Ma che gravissimo? È la politica, su, è il cinismo della politica, abbia pazienza. Ma andiamo di mezzo sempre noi, però, perché dopo a governare. Scusi, non Mario, ho appena fatto l'esempio di un ex direttore generale di Confindustria, il quale pensava delle cose sul mondo del lavoro e su altre cose completamente diverse, per esempio, da una parte consistente del PD e di Vendola. Eppure è candidato col PD, diceva che Monti doveva continuare anche dopo il 2013, eppure è candidato in una coalizione che vuole Bersani premier. Per cui, insomma, poi alla fine le persone si accomodano, no? Si accomodano. Ci sono i compromessi, ci sono i compromessi in questo caso per entrare in Parlamento o per dare un contributo al Paese. Naturalmente la metto in maniera assolutamente, come dire, leggera. E nell'altro caso per vincere in Lombardia, per vincere in Lombardia, per mandare ancora in Parlamento un drappello, se non un numero consistente di deputati, per no, cercare di vincere. Questo è d'accordo con lei, però con la Polverini poteva essere un po' più duro. Ma la Polverini, la Polverini mi doveva dire alcune cose su se è candidata, ha detto che si candida, non sa ancora se la Camera o il Senato, se appoggia a Storace oppure a Lorenzin, ha detto che è un mezzo pasticcio, e quello mi doveva dire, il resto non è che dobbiamo fare il processo alla Polverini. Certo. Vabbè, Pier Francesco da Parma, buonasera. Pronto? Dica. Pronto? Vabbè, Lucio da Reggio Emilia. Sì, buonasera dottor Cristiani. Dica, dica. Niente, io innanzitutto condivido quel signore di Treviso che mi ha fatto anche tanto sorridere, e questa è la dimostrazione che per fare certe cose ci vorrebbe una dittatura. Visto la dittatura non la possiamo avere, l'hanno già provata. Io sono nato nel 1944 con la Gestapo in casa, sono figlio di un partigiano. Purtroppo abito in un piccolo paese di Reggio Emilia dove ci sono ancora votazioni bulgare. Ma io che c'entra, speravo... scusi? Non ho capito nulla. Adesso lei mi sta dicendo sono nato in un centro, in provincia di Reggio Emilia, dove c'era il partito unico. Vabbè, ho capito. Dunque? No, sto arrivando. Sto arrivando, Crociani, mi scusi. Vada. Ecco, ok, allora le voglio dire che la sinistra ha perso una grande occasione con Renzi, perché la guerra civile, chiamiamola così per dare una cosa abbastanza, un nome abbastanza importante, la guerra civile non è ancora finita, cioè questo odio contro Vedevendola, contro i ricchi, contro chi ha di più, contro non finirà mai se non arriviamo a una socialdemocrazia, e Renzi poteva essere il passepartout per poter far questo. Io volevo chiedere a lei e al suo ospite, qual è l'ospite? Insomma, quel signore là che lei intervista ogni tanto, non so chi sia. E chi è? Ma quel signore lì che sta parlando con lei al telefono adesso deve essere... Ma non c'è nessuno adesso, perché oggi quello è malato, almeno si è dato malato, dice che non può rispondere. Va bene. Mica l'ho intervisto poi, è il mio socio. Il suo socio, volevo da lei una su una, che cosa? Non ho capito, qual è la domanda? La sua osservazione, se anche lei è d'accordo che in Italia ancora abbiamo questa controposizione che solo una dittatura potrebbe togliere, altrimenti andiamo avanti a farci la guerra destra-sinistra, con tutte le minchiate che sentiamo. Zanzara tigre, tu sei come una piccola zanzara che la notte mi... Me lo fate risentire il momento della Vezzali che tocca Berlusconi, solo quello, solo il momento del tocco. La Vezzali, adesso candidata per Monti in una famosa trasmissione Porta a Porta, tocca Berlusconi perché lo vuole proprio toccare. All'epoca Berlusconi era presidente del Consiglio, insomma, in carrozza. Vediamo come se la cava. No. Io non potrei mai, nemmeno con un fiore. Presidente, io da lei mi farei veramente toccare. Sei gelosa più. Cioè, l'ha toccato e poi dice che da lei mi farei toccare. L'ha toccato e poi ha detto io da lei mi farei toccare. E poi ha esaltato Berlusconi. La grande speranza di Berlusconi per l'Italia. Candidata con Monti. Che la notte mi consuma, mi rende isterico. Stefano Zamponi è con noi, eccoci qui. Buonasera. È fortunato lei perché ho il socio malato, eh? È molto fortunato. Siete voi canaglie. Molto fortunato. Stefano Zamponi, per chi non lo sapesse, è quello che... come dire, arrivò agli onori delle cronache, divenne famoso extra Lombardia perché regalò una maglietta, poi se ne pentì, una maglietta alla signorina Minetti. Minetti, la signora Minetti in consiglio regionale, una maglietta in cui c'era scritto finché non vedo non credo, perché la Minetti era andata in giro con la famosa t-shirt, senza t-shirt sono ancora meglio, e così lei divenne famoso per quella maglietta. Questa è la realtà, mediaticamente, Zamponi. Pagata con i miei soldi. La maglietta, sta dicendo, quella la Minetti? Sicuramente sì. Beh, certo, adesso questo è importante precisarlo. No, siccome c'è gente che ha pagato un po' di tutto. Però non faccio lo spiritoso, perché adesso sono arrivati pure da voi i finanzieri, cioè... Ma no, non è che sono arrivati, è giusto che controllino, sono soldi pubblici. Certo, certo, giustissimo, giustissimo. Sono un'enormità di soldi pubblici che affluiscono nelle casse di gruppi consigliari che hanno dimostrato in tutta Italia di non essere proprio corretti. Sì, ed è giusto che... È giusto che ci sia un controllo, no? Lei se l'aspettava dopo le indagini sulla maggioranza, no? Ci sono arrivati in un modo strano, perché le indagini sul rimborso ai consiglieri sono nate da un filone marginale dell'inchiesta su tangenti di centinaia di migliaia di euro a Nicoli Cristiani, Boni e Buscemi. Allora, Stefano Zamponi è il capogruppo dell'Italia dei Valori. Non so se esiste ancora l'Italia dei Valori a livello di gruppo regionale, esiste ancora? Faccia lo spiritoso, l'Italia dei Valori esiste... Esiste? E continuerà ad esistere. Siete a livelli di percentuale qua, 2%, quanto siete? Il 2%, il 2,5%. Ma... Vabbè, ma al di là di questo, Zamponi, prima di affrontare questa questione dei fiori e di altre cose, ma un consiglio regionale senza la Minetti non sarà un po' più noioso rispetto a quello di prima? Mi dica la verità, vi siete divertiti per qualche anno? Sì, allora, un po' più che altro è un fenomeno mediatico, nel senso che sui lavori consigliari, le assicuro, non è che abbia avuto un'incidenza memorabile. No, certo. Ogni volta che si muoveva aveva un codazzo di fotografi, di cineoperatori e così via che la seguivano. Tanto che alla fine il presidente fece un provvedimento restrittivo per cui alla stampa non fu più consentito di... Vabbè, un po' vi mancherà, su, un po' vi mancherà. Se lei dovesse essere rieletto, un po' vi mancherà. Non credo proprio. No? No. Cioè, capisco che sia un argomento che attira l'attenzione un po' anche dei suoi ascoltatori, ma le assicuro, dal punto di vista politico, non ha lasciato una traccia memorabile. Allora, Zamponi, al di là di questo, lei è un avvocato cassazionista di Monza. Ha un reddito nel 2011, non mi ricordo l'ultimo, è di 302.000 euro. Sì. Se non sbaglio, ma che bisogno lordi? Beh, certo, 300, stiamo sempre parlando di lordi qui, che per carità, per me va benissimo. Io ho fatto prima l'elogio di Depardieu, che è scappato dalla Francia perché quello gli vuole mettere il 75% di tasse oltre 1 milione di euro, per cui figuriamoci. No, se io resto a Monza e pago le tasse, mi dispiace, ma siccome le dispiace pagarle, così, certo, cioè io non... c'è qualcuno che paga le tasse con piacere, no per carità, non fa piacere. Ma è un dovere civico. Qualcuno disse che erano bellissime le tasse anni fa. Però, il povero Padoa Schioppa. Lei comunque, avvocato cassazionista, guadagna bene, perché diciamo è benestante, se non addirittura si può considerare ricco. Qui voi mi inciampate dell'Italia dei Valori. Beh, 302.000 euro significa essere un po' ricchi, cioè in Italia. Benestante. Diciamo, non i super ricchi di vendola, ecco. No, non i super ricchi in questi termini. Anche lei li manderebbe all'inferno, no? Al diavolo. No, io ritengo che debbano pagare in progressione, non in proporzione. Come avviene adesso. Vabbè, insomma, lei ha... è uno benestante. Perché mi inciampa su questa storia dei fiori? I fiori... Allora, non è una questione di inciampare sui fiori. Cioè voi, ripeto per gli ascoltatori, tanto lei l'ha detto anche davanti, credo, ai finanzieri, non so a chi, una delle accuse che vengono fatte, accuse tra virgolette, che vengono fatte al gruppo dell'Italia dei Valori e a alcuni gruppi dell'opposizione, ma in questo caso stiamo parlando del gruppo dell'Italia dei Valori, è di avere comprato 100 mazzolini di fiori per l'8 marzo del 2012, per una spesa di, Zamponi? Non me lo ricordo. Come non se lo ricorda? 200-300 euro. 300, aspetti, non poi... me lo ricordo, ma... aspetta, è chiaro che posso anticipare. Sì, dica. Non sono stati i finanzieri a chiedercelo. 300 euro. Noi abbiamo messo a disposizione della stampa tutti i 2000 e rotti documenti che rappresentano le 5 spese. Anni di spesa del gruppo consigliare dell'Italia dei Valori. Allora, i soldi per i fiori, i soldi per i fiori per l'8 marzo, erano tra le spese istituzionali per attività politica? A me non mi pare. No, erano spese di rappresentanza. Cioè, perché rappresentanza? Il punto vero è regalare dei mazzolini di mimosa alle donne il giorno della festa della donna. Sì. È attività di rappresentanza o no? No, non è attività politica, su Zamponi. Se io mi paghi, parlo di politica. No. A chi l'avete dati? A chi l'avete dati? A chi l'avete dati? Li abbiamo distribuiti, credo, alle donne del Consiglio regionale. Adesso non mi ricordo neanche, perché tra l'altro io sono il capogruppo, sì, ma non mi occupo direttamente di tutte queste cose. Mm. So che avevano organizzato una distribuzione di mimose per la festa della donna, ho dato la mia autorizzazione e mi prendo la mia responsabilità davanti all'autorità penale di aver autorizzato questa spesa come spesa di rappresentanza. Le spese di rappresentanza poi possono essere anche secondo lei, e poi vedremo se sarà, come dire... Ma, scusi, definisca lei le spese di rappresentanza che cosa sono, in un'azienda che cosa sono? Non lo so, guardi, i mazzolini di fiori per la festa, per carità, non è che vi siete andati, non è che vi siete comprati la lavatrici, come sembra venire fuori dall'inchiesta. Il gruppo che io presiedo è in assoluto nel 2011, non perché lo dico io, l'ha scritto Libero, che non è vicino all'Italia dei Valori, il gruppo che ha speso in assoluto di meno, sia come spese di funzionamento, abbiamo speso 45.000 euro, sia come spesa pro capite, perché noi eravamo tre consiglieri, abbiamo speso circa 15.000 euro. Ma per esempio, perché ogni volta spendete i soldi per i pranzi e per le cene? Perché non è ogni volta. Cioè ogni volta spendete una cifre consistenti per pranzi e cene, ma non c'è già lo stipendio, c'è lo stipendio dei consiglieri regionali. No, allora, le cene sono rarissime. Ma se uno vuole fare bene la sua attività, deve avere, soprattutto se è all'opposizione, una rete di conoscenze, di informazioni e così via. Ma se vede, anzi io la invito a venire a vedere i nostri documenti, sono 20 euro, 30 euro, 50 euro, non ci sono gli 850 euro che ho letto sulla stampa essere stati addebitati da altri. Cioè lei sta dicendo che quando va al ristorante eccetera sceglie anche ristoranti meno costosi? Ma noi, guardi, i nostri ristoranti sono tutti nei dintorni del Pirellone. Sì. Adesso non voglio fare pubblicità gratuita. No, ma tanto lo sappiamo, l'abbiamo letto sui giornali. Però quello dove andiamo di solito è un menù a prezzo fisso a 10 euro. Sì, però resta la cosa di fondo. Siccome già c'è un come dire, c'è uno stipendio da parte dei consiglieri regionali che è quello che è, che è un ottimo stipendio, perché assolutamente grandioso. Allora, perché uno non spende, lei dice le cene sono poche, perché non si spendono questi pochi, cioè per queste poche cene i soldi dello stipendio, e si deve allargare ancora la quantità di soldi dati ai gruppi parlamentari? Perché ai gruppi consigliari? Ai gruppi, sì, consigliari. No, ma allora ha ragione, si parla in termini di opportunità. Noi potremmo pagare di tasca nostra tutto, perché con 9.000 euro al mese netti noi potremmo pagarci addirittura i dipendenti del gruppo. Però la normativa, che non l'abbiamo fatto noi, è del 1992. Noi, ma questo ho capito, non la, è poteva, un merito. La potete cambiare, insomma, no? Se vi sembra. Allora, io ho fatto cambiare, è stata una proposta dell'Italia dei Valori, quello sui vitalizi. Cioè, voglio dire, dalla legislatura che verrà eletta il 24 e il 25. Ma lei si vuole ricandidare? Zamponi, si vuole ricandidare lei? Io mi ricandido, ma voglio dire. Ma con che chi? Con chi? Con chi si ricandida? Con l'Italia dei Valori. Con chi? In alleanza con Ambrosoli, avete già chiuso l'alleanza? Abbiamo una coalizione con Ambrosoli, con PD, con SEL, che si candida a governare in alternativa al centrodestra. Mi faccia dire una cosa. Sì, avete cambiato la questione dei vitalizi? Sì, ho capito. No, ma abolire i vitalizi vuol dire aver fatto risparmiare al Consiglio regionale circa 800.000 euro l'anno. No, va bene, ma scusi, i giubbotti catarifrangenti? No, quelli cioè i giornalisti a volte sono un pochino frettolosi, sono quei gilet che si mettono in macchina che costano 3,70 euro. E perché li ha debitati? Lasci perdere. A contraddistinguere nei convegni il personale dello staff a costo irrisorio, invece di fare le belle divise con su scritto Italia dei Valori. Cioè voi quando fate un convegno avete bisogno di queste... Il personale che c'è lì indossa questi giubbini in modo che sia facilmente riconoscibile. Ma si parla dei gilet che ogni automobilista ha in macchina, quelli che costano 2 euro, 3 euro. Beh, quanto avete speso in tutto questi giubbotti? Mi pare ne abbiamo presi 10, abbiamo speso 37 euro. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Ma i fiori per la festa della donna, Zamponi, li ha comprati lei personalmente? No, no, no. No, cioè adesso va bene tutto, ma io cerco di fare il consigliere regionale, dai. Cioè li ha fatti comprare? C'è un'impiegata che segue queste cose al gruppo. Ma come vi viene in mente per fare una cosa di rappresentanza comprare i mazzolini di fiori per la festa della donna? Cioè che c'è? Ma c'è scritto l'Italia dei Valori sopra? L'ha scritto l'Italia dei Valori sopra? No, ma figuriamo, sì, così li personalizziamo. E che ne so, cioè, scusi, e come si fa? Ma scusi, lei... E perché dovrebbe essere spesa di rappresentanza? Antidonne. No, tutt'altro. Il giorno della festa della donna, dei mazzolini di mimosa, è un gesto gentile. Ma lo faccia fare ai fidanzati, ai mariti, non al gruppo dell'Italia dei Valori. Perché il gruppo dell'Italia dei Valori deve comprare 100 mazzolini di fiori? Per carità, sono 300 euro, 100 mazzolini di fiori coi soldi miei. Perché ci sembrava... Sono soldi anche miei, ha capito? Nei confronti delle donne del Consiglio regionale. Non è così. Prendiamo atto. No, è così, magari sarà stato gentile sicuramente. Devo dire, perché lo devo pagare io questo gesto gentile vostro? Noi abbiamo una legge, voi avete una legge, la Regione Lombardia ha una legge che si può cambiare, che si potrà cambiare. Che prevede la possibilità di spendere per i fiori. Che si prevede le spese di rappresentanza. Se lei, come Radio 24, vuole regalare un mazzo di fiori a una sua ospite... Lo pago io? No, lo paga la radio. Ma chi l'ha detto? Lo pago io, guardi, le assicuro che lo pago io. E poi comunque sono soldi privati, non sono soldi pubblici. Ecco, la differenza vera è questa. È giusto che i pubblici ministeri indaghino su tutti per vedere se questi soldi pubblici sono stati dilapidati o se sono stati usati con oculatezza. Vabbè, io personalmente ho la coscienza a posto perché... ho speso meno della metà dei fondi che la Regione ha stanziato secondo quella legge del 92. Poi è giusto che i giornalisti facciano anche il loro lavoro. Ma lei pure alla Camera si candida, Zamponi? O al Senato? Solo in Lombardia? No, io sono un modesto politico regionale. Va bene, grazie, a presto. Salve. A presto. Poi intanto stanno uscendo tutti i candidati del Partito Democratico, che con qualche ora, qualche giorno di anticipo, anzi no, con diversi giorni di anticipo, perché i candidati si possono presentare fino al 20-21, se non sbaglio. Dunque, con una quindicina di giorni di anticipo il Partito Democratico poi si può cambiare tutto, ovviamente. Ci sarà la famosa selezione, il famoso screening di Berlinguer, del Comitato dei Garanti. Comunque il Partito Democratico ha reso note le sue candidature regione per regione. Abbandono il mio corpo nudo. Mi adorano. Cristina da Rimini, buonasera. Eccola. Vada. Allora, io volevo portare la mia testimonianza. Ho 50 anni, sono 30 anni che lavoro, ho un'azienda con 30 dipendenti. Lavoro dalla mattina alla sera, ho avuto due maternità e ho fatto 7 giorni di maternità per ognuno dei due figli. Lavoro con una grande passione, faccio parte della categoria dei benestanti. Allora? Tutto quello che mi sono guadagnata me lo sono cavato anche dalla salute. Sì. Sono stanca che la gente pensi che i ricchi tolgono i poveri. Siamo lei quanto guadagna, scusi, Cristina, quanto guadagna? Io guadagno circa 5.000 euro al mese. Vabbè, mica ricca, insomma. No, benestante. Sì. Benestante. Faccio una vita normale, lavoro 8 ore al giorno. Però sono stanca di sentirmi sempre criticare e continuamente applicare delle tasse, continuamente, in maniera tale che ormai non si vive più. Non puoi avere una seconda casa, non puoi avere, praticamente ormai siamo tassati per ogni cosa che realizziamo. Allora, io mi chiedo, si rendono conto le persone che vivono di benefici pubblici, che siamo noi che glieli paghiamo? Grazie Cristina, grazie. Ecco, Emilio da Piacenza, forse. Buonasera Emilio. Ciao, buonasera. Dica. Volevo dire che questo signore, questo commentatore sportivo che parlava un pochettino male dei tedeschi, in fondo non è che ha tanto torto. Perché Cioè, forse ha sbagliato un po', avrà mischiato qualche cialtroneria in mezzo, qualche fesseria. Beh, però. Non lo prenda troppo sul serio, è un fenomeno locale, è un personaggio straordinario a modo suo, ma insomma adesso non cerchi delle logiche o comunque delle ragioni. È un'invettiva di quelle che a me piacciono moltissimo, un'invettiva contro la Germania per la vicenda Schettino, contro i tedeschi, che si è un po' allargata questa invettiva, dalle proteste dei tedeschi su Schettino ad altre cose. La mia preparazione culturale non arriva a fare una questione No, ma non è questione di preparazione culturale, cioè è una questione di, come dire. Ma io dico che non intendo chiudere la bocca dei tedeschi perché sono liberi. Un attimo solo, Berlusconi versus Gruber. La Lega ha chiesto che il candidato premier della coalizione di centrodestra non fosse lei? Sono io che ho avanzato questa proposta, che forse in qualche modo ha anche facilitato il gioco, il lavoro all'interno della Lega. Beh, come Berlusconi ha avanzato la proposta, cioè, è la Lega che non voleva Berlusconi candidato premier, non è Berlusconi che ha detto sì, vi faccio io questa proposta. Beh, sentiamo ancora. L'attuale articolazione della Costituzione, che riduce a quasi niente i poteri del premier, non ha nessuna possibilità di agire. L'unica possibilità che ha un Presidente del Consiglio oggi è quella di stendere l'elenco, l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, mentre invece il Ministro dell'Economia, magari mettendo, cioè sta dicendo che il Ministro dell'Economia è più importante del Presidente del Consiglio, beh, siamo al delirio, può agire in profondità ed è quello che si deve fare. Quindi lei sarebbe disposto a fare il Ministro dell'Economia con per esempio un Presidente del Consiglio Tremonti, visto che la Lega no, questo ha chiesto Tremonti? Che sì. Vedremo, non è adesso il momento per individuare con certezza il Presidente del Consiglio, perché come sappiamo il Presidente del Consiglio è una scelta che appartiene al Presidente della Repubblica, il quale, guardando... Però sul suo simbolo ci sarà scritto Silvio Berlusconi. C'è scritto, sì. Ho capito, ma avete sempre detto, adesso io faccio il contraltare di Berlusconi, avete sempre detto che il Presidente del Consiglio, gli italiani devono saperlo la sera stessa delle elezioni. ...100 di voti, ed è proprio quel 40% a cui noi puntiamo. Peraltro vorrei ribadire che non si va da nessuna parte in Italia se non succedono alcune cose. Vabbè. Modificare la Costituzione, i poteri del Presidente del Consiglio, l'architettura istituzionale delle decisioni. Vi anticipo già tutto. La seconda cosa, che è anch'essa l'unica speranza che abbiamo per poter abbassare la pressione fiscale, modernizzare il paese, realizzare quella rivoluzione liberale che io avevo promesso nelle precedenti campagne elettorali, che poi non sono riuscito a fare. Io ero in buona fede, ma mi immaginavo che andando al governo ci fosse realmente questa possibilità. Questa ma possibilità... chi è che non le l'ha lasciato fare? Chi? Il suo riottoso alleato due a tratti, cose, la Lega? Guarda, sì, due situazioni. Il primo è che il governo, come le dicevo, non ha strumenti adeguati. Beh, però il governo Monti ne ha fatte di cose anche poco digeribili. Lavorava per in una situazione assolutamente eccezionale che non è consentita ai governi eletti democraticamente. Il governo Monti ha potuto approfittare. Va del bene, fatto Emilio da Piacenza, buonasera. Sì, se Berlusca sa il nome di questo commentatore sportivo lo mette in qualche lista, sicuro. Cioè? E di questo che parlava, ma così un pochettino male dei tedeschi, sicuro. Ah, di Semproni, sicuro, sì. Sicuro. Io mi scontro quasi giornalmente con loro, sono camionista e arrivo con un camion tedeschi, italiano. Sì. E per loro sono italiano. si abusano troppo delle loro... Lasciamo perdere i casi personali, scusi Emilio, adesso lei si scontra con chi? Con i suoi colleghi tedeschi, con i camionisti tedeschi o con i tedeschi, con gli automobilisti o con la burocrazia che poi... Un pochettino, soprattutto con la burocrazia. Ma che burocrazia? Diciamo... Se in Germania c'è la burocrazia, in Italia che c'è allora? La Cayenne? Aspetti un attimo, mi faccio ascoltare Berlusconi. La Corte Costituzionale che inderogabilmente lo abroga. Vabbè, quindi, siamo di nuovo alla pippardella sulla Corte Costituzionale. Allora Emilio, concludiamo. La burocrazia sono gli uffici doganali. Vabbè, allora, allora ha ragione Semproni. Ma forse non nella forma, nel modo in cui l'ha detto. Sicuramente ma no. Buon viaggio, Emilio, buon viaggio. Ciao, Giorgio dalla provincia di Milano. Non la sento, la richiamo. Barbara da Cosenza. Barbara? Sì, pronto? Dica, buonasera. Ti chiedo scusa. Volevo sapere come mai non si parla mai della lista Ingroia. Come mai non si parla mai. Questa mattina Ingroia stamattina è stato ospite Alessandro Milan a 24 Mattino. Si parla continuamente della lista Ingroia. Non è che se ne può parlare ogni giorno. Ancora Berlusconi? Lontanissimi da questo, perché quando i padri costituenti... scrissero nella Costituzione ancora quei padri costituenti, no? I poteri li distribuirono alle la Gruber dovrebbe interromperlo quando comincia a parlare dei padri costituenti della Costituzione che non funziona il governo. Perché? Perché temevano che si potessero ricreare le condizioni che avevano portato al precedente regime, al fascismo. La seconda cosa, al di là della struttura quale sarebbe? Costituzionale che non permette di operare come succede agli altri governi, c'è anche il fatto che nessuno mai da noi ha avuto come movimento politico la maggioranza assoluta. Ah, ecco, la storia del partito unico. Sì. Ogni governo dovrebbe avere la maggioranza. Non solo sul suo partito di maggioranza relativa, ma anche su altri piccoli partiti. Beh, avevate 100 deputati di maggioranza. In Italia agiscono... Beh, lei con la Lega però c'ha avuto una maggioranza fortissima. Non c'era soltanto la Lega, c'era anche la presenza di Fini e dei quasi 100 deputati loro. Che poi se n'è andato dopo, insomma, alla fine. Che poi ha tradito gli elettori, ha tradito i parlamentari. Vabbè, non ha voglia di dare battaglia alla signora Gruber stasera. Però insomma, adesso non c'è nessuna possibile... cacciata, perché ma ci sono varie interpretazioni, non è che non c'è nessuna possibile cacciata, ci sono tante interpretazioni su quella vicenda lì, Berlusconi, tante interpretazioni, alcuni dicono che voi l'avete costretto ad andare via, altri dicono che lui se ne voleva andare comunque, io la penso così, tra l'altro, per cui non è che c'è l'unica verità, è quella di Berlusconi, e poi adesso un partito politico che non raggiunge l'1%, quindi evidentemente c'era un disaccordo politico. E comunque poi adesso glielo chiederò quando viene venerdì, però aspetti, non vogliamo quindi vorrei... cioè l'elettorato della Lega non digerirebbe che lei fosse... Che gliene frega Berlusconi dell'elettorato della Lega? Sbaglia, completa una cattiveria inutile, quella di Casini? Sì, è una delle tante cattiverie, è una delle tante menzogne che il personaggio è abituato a dire, e quindi non c'è nessun riferimento a questo, nella maniera più assoluta, anche perché poi è il Presidente della Repubblica che decide. Certo. Senta, onorevole Berlusconi, lei insieme alla Lega ha fatto anche un accordo sulle tasse, no? Perché la Lega vorrebbe creare l'accordo sulle tasse al 75%. Che include le regioni del nord. Mamma mia, che noia, però. Includere. Ha detto di sì, Berlusconi. Ha detto di sì a questa cosa della Lega. Tanto comunque è difficile da attuare. Delle tasse riscosse allo Stato. Allora, lei è d'accordo su questa? Beh, sì, l'ha firmato, è d'accordo, certo. Della Lega, questa che bisogna vedere se è costituzionale. A cui siamo già molto vicini, perché calcolando tutti i costi. Berlusconi attacca il pippone sul coso, dai. Il pippone è un'ipotesi che si può raggiungere, siamo già molto vicini, eccetera. Che sono a carico dello Stato centrale. Già Gianni da Roma mi aiuterà per la traduzione di Semproni, è vero Gianni? Sì, però sentendo Berlusconi verrebbe in mente anche un'altra cosa. Posso? Cosa? Come no, certo. No, riguardo Berlusconi, fra le tante imbecillità che dice e che fa, adesso questa cosa di Fratelli d'Italia, che ha detto su Fratelli d'Italia? La Russa, la Meloni, ho fatto una bad company. E poi comunque loro non l'ha detta, mica ha detto così Berlusconi. Dice lei, Gianni, abbia pazienza. Però loro si fermi lì, mi aiuti a fare questa cosa su Semproni. Ma è sicuro che essere in grado di tradurre bene Semproni? Beh, più o meno. Sicuro, no? Vediamo. Come vediamo? Lei chiama e poi dice vediamo. Dai, sì, ci provo, sì, sì, lo faccio. La parte più difficile, quella sui tedeschi, l'ultima, la seconda, qual era? Sentiamo. Avete 7-8 milioni di gente, state a parlare. Avete perso una guerra assurda. Avete tenuto un mezzo pazzo là e ci state a dire a noi di sghettino. Allora, iniziamo da qua, iniziamo da qua. Avete ucciso? Avete? No, avete ucciso 7-8 milioni di... Insomma, avete fatto una guerra. Sì. Mo ci state a... Insomma, ci state a attaccare la pippa a noi per un mezzo pazzo, per schettino. Avete avuto un mezzo pazzo come Hitler. Ah, ecco. Poi... Sì, quello l'ho capito anch'io. Gianni, così così, Cosa si chiama ancora? Nella vita, ma non è che con una persona ci identifica la cultura di un paese e la dignità di tanti uomini. E questo è chiaro. Capite? A me mi fa incazzare terribilmente. Andiamo avanti, ci cazzi di tedeschi, ste crocca che mangiano solamente le piuste. Sapete manche chi è lo temballe voi? Ma avete imparato a mangiare qua quando venete? Ma dove presentate? A dove? Sapete quanti buone le rostelle? Se sapete a dove le mettevi le rostelle, caro mio. Ecco, questo non, no, questo non è chiaro. Insomma, mangiate cioè... solo i wurstel. Beh, Gianni, so tradurre meglio io. No, scusi. Mangiate solo i wurstel. Dice: noi abbiamo il timballo. Avete imparato a mangiare quando siamo venuti qui da noi. Noi abbiamo il timballo. Sì, non sapevate manche che cos'era il timballo. Che cos'era, cioè. E poi le rostelle, che sono gli arrosticini? No, i wurstel. Vabbè, i wurstel. No, le rostelle. Le rostelle. No, no, no, i wurstel. Dice i wurstel. Ma no, ma secondo me no. Sì. No, ma Gianni, tu, sì. Scusi, ma no, risentiamo l'ultima parte. Identifica la cultura di un paese e la dignità di tanti uomini. Capite? A me mi fa incazzare terribilmente. Andiamo avanti. Ci cazzi di tedeschi, ste crocca che mangiano solamente le piuste. Sapete manche chi è lo temballe? Non voi? Sapete cosa avete imparato a mangiare qua quando venete? Avete imparato ma a mangiare dove qui? Presentate? A dove? Dove vi presentate? Quanti dove andate? Buone le rostelle. Se sapete a dove le mettevi le rostelle, caro mio. Ah, quanto sono buoni i brustelle. I brustelle, dice, o le rostelle, che qualcuno ha detto rostelle. No, no, i brustelle, i brustelle. Ah, i brustelle, se sapete dove io li mettevo, c'era una cosa un po' erotica, che cos'era? Sì, cioè, se sapete dove li mettevo io i wurstel, cioè, vabbè. Posso dire l'ultima cosa? Dica, dica. No, sull'imbecillità delle candidature premio, cioè, quando si... Premier... No, no, no, premio, premio. Ah, premio, cioè che vuol dire? Candidano i personaggi arrivati alla ribalta... Sì, sono d'accordo con lei, sono d'accordo con lei. Tipo sì. L'operaio della Thyssen, oppure il PDL che voleva candidare il Marò, però il peggio per è esempio quando... stavolta chi c'è? No, no, dico il peggio invece quando si candidano... Non si può candidare il personaggio perché magari è morto. Quindi comunque qualcuno tipo, dice che sono i rustelli... Il figlio di Ambrosoli, oppure la moglie di Massimo D'Antona, la figlia no, di... No, sono d'accordo con lei, l'ho detto più volte. In ogni caso qualcuno dice che questi rustelle sono gli arrosticini, i rustelle sono gli arrosticini. No, non si dice assolutamente così. No, vabbè, no. C'è una disputa in corso. Grazie, Berlusconi. Ciao. Tassa per diciamo, tassa i patri per grandi patrimoni immobiliari resterebbe. Io per esempio oggi mi sono accorto di quanto ho pagato personalmente sulle case di mia proprietà dell'IMU. Ecco. Ho pagato un bel po'. Quanto ed è una pagato? Cifra abbastanza importante, 300.000 euro. 300.000 euro in rapporto alle tante. Beh, Monti 27.000. Ecco, volevo chiedere, credo, non pensa che se lei a suo tempo... Anche se non lo sapeva, Berlusconi si è accorto oggi di aver pagato 300.000 euro di IMU. Una tassa IMU, ecco, questa è una domanda interessante. Pesante. No, assolutamente, non c'è... nessun rapporto tra quello che noi facciamo con l'ICI. Questa tassa comunque comporterebbe un introito nelle casse dello Stato di circa 4 miliardi. Se lei consente, facendo un paragone tra gli 800 miliardi di spesa totale dello Stato. Vabbè, per la questo è l'economista Stato, Berlusconi. 4 miliardi, Giuseppe da Catania, buonasera. Sì, buonasera signor Cruciani. Dica. Io intanto la saluto, saluto gli ascoltatori. Intervengo un secondo soltanto... dopo aver sentito quel consigliere regionale lombardo. Sì, Zamponi, ecco, sì. Ma io mi chiedo, io mi prendessi in oggetto dalla mia azienda, un'appropriazione indebita, cioè questi, il denaro che utilizzano, che prendono come vogliono, come se fossero oggetti, utilizzando per i loro scopi ad libitum e come vogliono in qualunque momento, cioè hanno ancora, non si rendono conto, cioè hanno ancora il coraggio di venire a contestare, a parlare. Vabbè, ho capito, in questo caso, scusi un attimo Giuseppe, in questo caso c'è una spesa secondo me sbagliata per dei fiori per la festa della donna. Esatto, però dico, un commercialista che ancora continua quasi a giustificare, cioè vuoi dire guarda noi in quella situazione ci siamo, abbiamo seguito l'andamento e va bene, abbiamo sbagliato, ma tentare di giustificare una persona ritengo colta, ritengo una persona in gamba nel suo lavoro, si fa cadere le braccia, non si riesce più, io, mi credo, non riesco più a sentire. Bene, grazie. Giovanni, Giovanni da Milano, buonasera. Pronto, buonasera Cruciani. Dica. Mi senta? Allora, senta, anch'io volevo commentare Zamponi perché cioè, siamo entrati in un universo parallelo. Mm. Cioè, qui ci vengono a dire che un partito col 2% spende 45.000 euro ed è, sarebbe un merito questo. Mm. Cioè le spese dei partiti perché non se le pagano loro? Questo no, ma questo sono d'accordo anch'io, le spese di rappresentanza... 300.000 euro vabbè, lui guadagna 300. Non può spendere 300 per comprare... I mazzetti di Mimosa. Sono d'accordo con lei, però non è che se uno guadagna 300.000 cioè, euro l'anno 300... Poi dopo mi dicono che siccome c'è una legge del 92 sì, sì. Dove c'era ancora i socialisti di cui Di Pietro ci può dire tante cose. Ma quella è una legge regionale no? Che allora, allora siccome c'è la legge io sono autorizzato a spendere soldi, a buttare soldi nel cesso, Cruciani, parliamoci chiaramente, perché questi sono soldi buttati nel cesso. Cioè 300 euro per fare euro. 300 euro, no, sì, 45.000 euro per spese di rappresentanza, anche secondo me ma le stiamo scene... scherzando, ma stiamo scherzando, ma dove siamo? Ma perché? Ma per quale motivo? Per quale motivo non chi vota i partiti li sostiene economicamente? Come negli Stati Uniti. No, a me lo dice, io per me bisogna affamare la bestia, ha capito o no? Per me bisogna affamare la bestia, togliere tutto, soldi di rappresentanza, finanziamento pubblico, togliere tutto, solo lo stipendio. Sono d'accordo con lei, comunque la ringrazio per questo commento per auto non vedenti, perché io su Berlusconi... Ah, il commento su Berlusconi. Sì, no, il commento su Berlusconi mi sono praticamente escluso da guardare i telegiornali e tutto il resto, perché... Non parlano d'altro. Basta! Basta! Basta! Il fatto di pagare uno spread 575. Oh, ma lo spread adesso. Pensa lo spread. Che sarebbe rimasto a 575. Vabbè, ma diciamo, non è che si possono fare no, le speculazioni. Sarebbe rimasto o non sarebbe rimasto. Il fatto sta che quando lei si è dimesso era a 575, oggi invece è a 279. Non c'entra nulla il governo, perché quando io mi dimisi. La discussione sullo spread, che noia. Franco dalla provincia di Bari, il famoso complotto. Famoso complotto. Allora? Pronto? Vada. Sì, buonasera, sono Cruciani. Ha detto anche che al primo consiglio dei ministri abrogheremo l'IMU, che è la cosa che aveva detto l'altra volta con Lice. Al primo consiglio dei ministri abrogheremo l'IMU. L'IMU. Cosa santa e giusta. Beh sì, può darsi, anche a me farebbe piacere, però bisogna vedere poi che succede se uno abroga l'IMU. Deve trovare le risorse, le risorse corrispondenti. Io ce l'ho la soluzione. Che cosa? Allora, i musei italiani sono i magazzini pieni di reperti, di doppioni che hanno nei magazzini, che potrebbero tranquillamente vendere anche su eBay internet a chi non ce l'ha, e andiamo praticamente a zero. Questa è una delle soluzioni. Però la cosa che volevo fare è importante, e cogliere l'occasione della vostra radio, qual è? Che è molto sentita, quella praticamente di creare, diciamo, il contraltare ai partiti che tutti vogliono mettersi per aiutare la popolazione, eccetera, di rafforzare le fondazioni e di rafforzare? Di rafforzare? Le fondazioni. Ma quali fondazioni? Ma perché? Ma chi l'ha detto? Vi sto spiegando perché. Cioè io sono un imprenditore, anch'io ho 50 anni e lavoro da 30. Però vorrei creare praticamente la possibilità di mettere la mia impresa a disposizione. Scusi un attimo, Franco, abbia pazienza. Sì. Adesso noi stiamo parlando di politica in modo anche leggero, ma adesso perché lei ci sta parlando di mettere le fondazioni? La funzione politica era... Buona serata, la ringrazio. E che questo fioretto la possa aiutare a risolvere questi problemi. Ma io sono sicura, con persone come lei, con persone come me, che l'Italia un giorno potrà guardare a testa alta tutte le altre grandi nazioni. Basta! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.